24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Matteo Salvini siamo stati una coppia vincente in Corea. Cioè, in Corea l'ha convertito, Corea. Adesso è diventato Kim Ho Salvi. Una coppia vincente, era Franco Bechis che intervistava Razzi in Corea del Nord. Io non riesco a uscire dal trip di questo viaggio che Razzi, Salvini e poi c'erano anche altri esponenti politici hanno fatto in Corea del Nord. Vabbè, è proprio vero che la politica deve ancora ripartire, deve ancora reingranare la marcia in questo fine, questa coda così agostana, inizio settembre. Allora, di cosa si parla? Di razzi in Corea del Nord, che non sono cose minacciose, ma del nostro senatore che lì è di casa. Appunto, se lì è di casa. Vabbè, niente. Allora, alle 6:31 minuti, questa è 24 mattino e siamo qui in compagnia di Miriam Lucchetti in redazione, in compagnia di Pietro Lacorte oggi in regia. Fa un cenno di assenso, come dire, sì, sono Pietro Lacorte. Alle 6:31 minuti magari ha uno anche delle crisi di identità. Va bene. Che dobbiamo fare? Vogliamo aprire subito il Parlamento? Sì. Apriamo. Parlamento. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Apriamo. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io mi vado bene. No, ma glielo facciamo prendere il caffè. Allora, caffè per tutti, ora offre Renzi, evidentemente. Intanto ricordo che si chiude oggi la 70ª settimana decisiva per la riforma elettorale. È anche la 70ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Oggi c'è un articolo sul Fatto Quotidiano che ci racconta come le province siano forti, sane e lottano e vivano insieme a noi. Vorrei sapere che cosa. E uno si chiede, chissà. Ma chissà. Va bene, intanto voglio salutare con enorme piacere il ritorno di un uomo che sta preparandosi a sua volta a ritornare. Paolo Del Debbio, buongiorno, eccoci qua. Ciao Milan, buongiorno, tutto bene? Sì, lì è tutto a posto per la ripartenza di Quinta Colonna lunedì. Noi su Rete siamo 4. Nati pronti, caro Milan. Lunedì su Rete 4, a che ora? Le 21, 21 e 10. 21 e 20. Puntuali come cambiali. Vabbè, puntuale, no, che non è una bella premessa, è puntuale. No, come no, cambiali. Ma nel senso, diciamo, pronto, diciamo alla, precisi, pronto alla sfida dello share, dei talk show, di queste robe qui. Di tutte le sfide possibili. Le battaglie. Va bene, intanto chissà, Del Debbio, ti presento un nostro caro amico di Parlamento di 24 mattino. È l'avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno. Come va? Mi presento, ma lo conosco, insomma. Sì, no, certo. Caro Carlo. Come va Rienzi? L'estate tutto a posto? L'ha passata in compagnia del comandante Schettino? Beh, no. Perché non ho una barca adeguata, insomma, però spero prima o poi di farci un giro. Sì. Vabbè. Ti ricordiamo, possiamo dire testimonial del Codacons? Sì, si può dire, no? Schettino. Beh, no, non è esatto. Cioè, non è esatto. Abbiamo un'intervista esclusiva sua, gli unici ad averla come televisione Codacons TV, che è molto importante sia per il processo, sia perché la gente possa capire come le responsabilità di quel naufragio non sono soltanto di Schettino, ma dei costruttori della nave, dell'armatore, di altre aziende grosse, perché ovviamente alcune cose come il generatore di emergenza che non ha funzionato, eccetera, eccetera, hanno determinato poi probabilmente anche l'evento di morte. Capito, alcuni... capito del debbio le inchieste di Codacons TV, mica. Ma le conosco. Però, sai, noi, che c'è? Noi siamo quelli che quando un comandante abbandona la nave... Siamo i primi a... non ci piace, sarebbe come piace. Se tu abbandonassi la tolda di comando del barramento. No, non succederebbe nulla, allora, infatti. Allora, voi avete capito questo del debbio, ma Razzi lo conosci, lo inviti, senti un po', sentiamo sì, un po'. È venuto un paio di volte da me. Che... è un soggetto utile alla trasmissione perché diciamo... è una trasmissione di politica, inserisce degli elementi comici e quindi è utile, insomma. Oh, vabbè, per la parte politica, ovviamente. Sì, e per la parte politica di che vuoi parlare? No, dico, è utile per la parte politica, Razzi, non... Sì, intendevi quella parte politica. Comica. Ah, ecco, no, sospettavo. Sì. Allora, a proposito, sentite Razzi, questo è un paio di Razzi. In Corea del Nord si mangia bene. Tipico coreano è buonissimo, io sinceramente ho mangiato bene, si mangia come in Cina, si mangia molto il tacchino, però il mangiare tranquillamente si può andare in vacanza, io penso che anche gli italiani sicuramente ci arriveranno, ci si può andare, è un'esperienza che io lo consiglio. Voi vi rendete, io non so se si mangia il tacchino e cari italiani adesso, quando si mangia peraltro si potrebbe dire, e questa c'è tutto fuorché ironia, sentite anche quest'altra, sempre di Razzi. Sulla Corea del Nord, come la Svizzera. Che mi sembra una Svizzera, siamo pulito, non c'è criminalità. E certo, sparano. No, i ragazzi possono giocare tranquillamente in strada. Io credo che queste cose si deleva. Se e butta una cicca per terra, cosa succede? Non c'è assolutamente. No, non c'è, d'accordo, ma se uno la butta, cosa fanno? Tagliano la mano? No, non lo fanno, se la portano quando appena vedono dove possono depositare, lo depositano. Del debbio, un popolo di una civiltà inesplorata. Un po' come noi, no? Prima di depositare si aspetta che ci sia un bagno, insomma. Sì, esatto. Fino a quel punto diciamo anche noi, è una città tranquilla, sui bambini non sparano e quindi... Tutto in Corea del Nord, gli italiani in Corea. Questo è un parlamentare. È un parlamentare, sì, certo che è un parlamentare, tra l'altro. È presidente. Che quel viaggio glielo paghiamo noi, Infatti questo essendo presidente della commissione, Rienzi dire. Faccia subito un esposto di qualche tipo. Voglio dire una cosa. Sì. Cioè, tu prima dicevi, d'altra parte la politica non ha ancora ricominciato, no, ha ricominciato male, io voglio capire, primo, quanto hanno speso, secondo, a che serve questo viaggio, cioè vorrei, come quando si fanno i viaggi aziendali, c'è scritto oggetto della missione, sì. Ecco, e poi risultati. Ristabilire, rilanciare la pace tra le due Coree, questo ti risponderebbe. No. E con chi lo facciamo? Con i Razzi, la pace? Con Razzi. Vogliono le colombe. Non con i Razzi, con Razzi. Rienzi, no. Comunque, insomma, questa politica riparte così, è un po' in sordina. Sì, no, io intanto per Razzi direi che non mi sprecate questo gusto di pensare a Razzi. Perché sì, no, a Razzi. Ah, a Crozza. È troppo divertente. Chissà questo, martedì che farà, no? Appunto. No, martedì non riparte. Ma lui, non so, fa sempre sì il suo pezzetto. Ma che ballarò? No, è passato con... Non lo so, sai, no, mi hai messo in difficoltà. No, non è più a Ballarò, comunque, è passato con Floris sulla 7, ma poi non riparte. Okay, penso proprio di sì. Ma ho saputo che stanno facendo una guerra tra i due, cioè si sono messi nello stesso orario per fare una guerra praticamente le due... La 7 e la Rai. Sì. Sul martedì, ma a me non mi sembra una cosa giusta questa cosa della guerra, voglio dire, ma chi se ne frega Rienzi, ma chi se ne frega, ma facciano la guerra, cioè possono mettere la programmazione quando vogliono. Vabbè, ho capito, ma la gente vuole trasmissioni di approfondimento sempre di più, questo non lo capisco, quindi è inutile costringere la persona a scegliere, sì. Perché così io vinco con l'audience, ma chi volete rompere con sta audience? Ma dateci la possibilità di approfondire. Di vederle tutte e due, insomma, vedi, fate come del debbio che va in onda lunedì, del debbio. Non andate solo lunedì, sì, ma non sono solo, sì, sì. Vabbè, ma lasciamo stare, se no mi viene il patema d'animo con questa udienza, certo. Perché voi dovete capire che in realtà, ecco, Del Debbio, svelacelo un po', come vive il conduttore della trasmissione di punta il giorno dopo, cioè il martedì, quando attorno alle 10, le 10 e mezza, le 11, ma arrivano i dati? Generalmente io dormo. Ah... perché uno va a letto tardi, il sonno dei poi giusti, poi non si addormenta subito. No, dei giusti aspetta che insomma, no. E, no, no, nel senso, e quindi io dormo e poi squilla il telefono e c'è qualcuno che dice, sento subito dalla voce, sì. Pronto, ah, è andata bene, ah, benone, pronto, aia, aia. E che com'è la reazione? Continui a dormire poi? No. E dico, vabbè, ci sentiamo dopo. E mi giro. Insomma, questa è la reazione molto emotiva, molto appassionata, molto di Paolo Del Debbio. Per qualche... No, ma voglio dire, ma sai, non puoi neanche... Cioè, per carità, tutti i giorni si guarda com'è andato, eccetera, eccetera. Ma non puoi neanche guardare proprio tutti i giorni, ma no, fosse, ma no, perché c'è anche un po' la cosiddetta tendenza, a volte una puntata ha sbagliato un ospite, ha sbagliato tante cose, cioè ho capito. Il pubblico quel giorno si è svegliato che aveva mangiato più cipolle che fagioli, quindi una volta invece più aglio che bietola, insomma, in base a questo, sì, in base a questo effettivamente cambiano le cose. Ma io ora vi voglio far sentire un pezzettino di un film storico, perché entriamo un po', come si suol dire, nel tema del giorno lanciato da tutti i giornali. Fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incazzò davvero. Non avete scampo, arrendetevi. Te lo ricordi Del Debbio questo? La polizia. Oggi il titolo di Libero è proprio così: e la polizia si incazza. Cioè la questione del blocco degli stipendi degli statali e lo sciopero annunciato dalle forze dell'ordine congiunte. Sapete qual è stata la risposta di Renzi? Ha detto: intanto è un ricatto. È un ricatto. Discutiamo, ma 5 forze di polizia sono troppe. Discutiamo anche di questo. Oh, ma è uno, Uno con le palle. È uno, Rienzi dice così, è uno con le palle. Sì, però fa troppe chiacchiere e pochi fatti, parliamoci chiaro. Ho capito, allora sono un po' in contraddizione queste due cose. Ci dobbiamo contentare di quello che abbiamo. No, però è interessante la questione. Allora, Paolo Del Debbio, magari questo immagino sia un tema che tratterete, non lo so, lunedì. Perché qui incide su il portafoglio di milioni di italiani, gli statali che vedono lo stipendio bloccato. Renzi che però dice, questo è un ricatto, come la vedi? La vedo che ci sono altri milioni di italiani che lo stipendio l'hanno visto ridotto più che bloccato, perché alcuni e molti italiani che lo stipendio l'hanno visto che non c'è più, perché sono stati licenziati, perché l'azienda andava male e quindi sono rimasti a casa. Invece ci sono alcuni, molti italiani, milioni, che anche se l'azienda va male, perché molta pubblica amministrazione va male, va malissimo in confronto alla pubblica amministrazione di altri paesi, e rimangono al lavoro. Allora io voglio licenziare quella gente, per carità, io non voglio licenziare nessuno. Io vorrei fare un applauso, perché è da due giorni che dico questa cosa, perché, e mi accusano di volere affamare milioni di dipendenti pubblici. Ci vuole fame, ma chi vuole la fame? Nessuno. Uno che sta lì e che il posto ce l'avrà di sicuro, perché non esiste licenziamento nella pubblica amministrazione salvo che lo trovino uno che sta coltellando il vicino. Allora, nel caso che il coltello non sia finto, lo licenziano. O si discute, perlomeno si discute. O si discute, d'accordo? Di là, però l'azienda va male, i profitti vanno giù e questi vanno a casa. Allora io dico, benissimo. Ragioniamo pure se è giusto che ad esempio si diminuiscano nella pubblica amministrazione, si blocchino tutti gli stipendi, forse bisognerebbe bloccarne alcuni e altri no, non lo so, oppure, però insomma anche questa reazione per cui immediatamente, si bloccano gli stipendi, sciopero generale. Sembra un po' ricatto. Rienzi, che c'è? Quando l'hanno fatto i magistrati, nessuno ha detto niente. Cioè, quando ti tolgono lo stipendio, si dice io ho capito, sciopero. Però adesso io non voglio 10.000 euro al mese. Sì, ma Rienzi, esatto, non è che si vuole fare una battaglia tra categorie, però tra 1.300 euro che non vengono toccate lo stipendio dei magistrati, che non sono una categoria che guadagnano pochi soldi, in media. Ma loro hanno fatto la stessa cosa, perché volevano tagliare gli stipendi anche loro, ma alla fine non li taglieranno, e hanno detto noi scioperiamo, e lo scandalo non c'è stato. Anche lo scandalo c'è stato lo stesso, ma l'hanno detto in pochi, ma lo scandalo c'è stato. Nel senso che poi si sono bloccati. Sì, però è vero che sembra un po' una battaglia, come dire, tra poveri, uso questa parola non a caso, cioè è quando uno dice vabbè, però almeno voi dipendenti pubblici un lavoro ce l'avete e non lo perderete. Sembra effettivamente del debito dire vabbè, ho capito, ma voglio dire, stiamo veramente a fare la battaglia, allora ci dovremmo accontentare perché il nostro stipendio è bloccato da anni e invece nel privato c'è chi perde il posto di lavoro, ci dobbiamo accontentare a 1.200 euro al mese a vita? No, ma io non dico, consideriamo le cose, cioè è vero che nel privato la fascia più bassa quanto guadagna? È più o meno quella cifra lì. Allora, però la guadagna con una percentuale di rischio molto maggiore. Allora io dico che intanto un punto di privilegio c'è. Uno, c'è un posto che non lo perde a vita, sicuramente. Che la sua azienda vada bene o vada male, che la sua ASL vada bene o faccia delle merde, che il suo ospedale vada bene o ogni tanto ammazzi anche qualcuno, che la sua scuola vada bene o non formi un bel tubo di nessuno, che il suo sportello per le imprese, invece di avere accelerato le cose, le rallenti, comunque rimane lì, le vogliamo dire no o no? Diciamolo. Poi nella stessa azienda, che uno sia un asino e quell'altro sia un genio, guadagnano uguale. Questo è il vero grande problema. 24 mattino. Prima di tutto bentornato Alessandro Milan. Ecco, io volevo dire, ma cosa c'entrano i bronzi di Riace con l'Expo di Milano, visto che il tema è l'alimentazione? Non è più indicata l'ultima cena di Leonardo, visto che è già a Milano. Imbecilli e latte politici che ci sono, l'Italia ancora si può aggiustare, ma dobbiamo arrestare tutti i politici, compreso il Presidente della Repubblica, altrimenti l'Italia non si aggiusta mai. Alessandro, i segnali radio costano. Gli scatti degli insegnanti non sono dopo 2 anni, il primo scatto dopo 9 anni, il secondo dopo 6, dopo ogni 7 anni. Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocciero, in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Sono andato al supermercato, ma i biscotti di nonno Piero, quelli che fanno bene sulla tazza, non li ho trovati. Dove si trovano? Caro Melani, sei tornato finalmente, eh? Senti un po', te volevo dire che il comitato del partito della Zappa ha proposto di educare il leader massimo ai lavori di campagna. Ma siccome è un po' vecchiarello e non gli potevamo far zappare il campo, ma dalla mattina alle 6 e la sera alle 5 lo portiamo giù la stalla a spalare la cacca delle vacche. E così impara a fare che cosa, no? Ciao Milan, ormai non ti resta altro che imbasticare lo fuoco, ciao. È tornato Angelino, il nostro contadino che mi invita. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappa lo campo dalla mattina alla sera e a pranzo. una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Questa, Paolo Del Debbio, è la ricetta che lui riserverebbe a tutti i politici, a un po' di gente. Ma è straordinaria. Cos'è che non ti resta che imbastica al fuoco? Che vuol dire? Qualcuno mi aiuti col dialetto di Terni, da quelle parti, imbastica. Quella di imbastica al fuoco, la di metterci la legna. Sì, sarà, esatto, di rinvigorirlo, no? Immagino, immaginato anch'io così. Vabbè, allora il partito della zappa è tornato. Che io dobbiamo. Stavo dicendo una cosa sulle forze di polizia, che non so se riuscite a dire. Cioè, è vero che il rischio di licenziamento è minore o non c'è, sì. Però c'è, sono altri rischi. Cioè, c'è una piccola differenza tra le forze di polizia e, che ne so, i netturbini. Perché Carlo. Renzi, tu hai notato che io non l'ho citato quando ho fatto gli esempi, perché è tutto un discorso a parte quello. Voglio dire, c'è una ragione per tener conto. Non voglio dire un'altra volta che i magistrati hanno addirittura l'indennità antiterrorismo da quando c'erano gli attentati e la conservano di una somma enorme. Non dico che bisogna darla anche alle forze di polizia, ma bisogna forse pensare che quei 1200 euro che prendono le forze di polizia corrispondono al fatto di stare in mezzo alla strada, ma no, a rischiare la pelle per noi, quindi certo. La forza di polizia è un discorso che si fa a parte sulla pubblica amministrazione, però ci sono delle zone. Questa reazione di Renzi che dice va bene, discutiamo, ma discutiamo anche del fatto che 5 forze di polizia sono troppe. Vabbè, ma questo dunque credo che la prima volta seria sia stato detto da tutti subito dopo la Costituente, dai primi persone più ragionevoli che dicevano pensiamoci, perché poi c'è anche la polizia provinciale, tra l'altro quella che si occupa della caccia e pesca, cioè, e dell'inquinamento, ce ne sono di più di 5, quindi poi c'è una differenza, scusa, che è importante, prego. Speriamo che siano unificate, così almeno i carabinieri possono scioperare come la polizia, perché sapete che c'è questo problema stranissimo, cioè i carabinieri non possono fare associazioni, sindacati, scioperare, io difendo molti di loro, addirittura delle organizzazioni dei carabinieri, ma stiamo facendo una guerra, una lotta fino alla Corte Costituzionale per dare a loro il diritto che hanno per esempio i poliziotti. Non si capisce perché uno sì e l'altro no, perché quelli sono militari e l'altro non lo sono, ma è ridicolo, in realtà sono lavoratori come gli altri. È ridicolo, vabbè. E allora, sentite qua come la pensa Vauro, uno che si professa ancora fieramente comunista, su Renzi. Queste misure, secondo te, a che categoria si possono ascrivere? Alla presa di culo? Se proprio ci deve essere una categoria. Insomma. Ecco, Del Debbio, diciamo, l'editoriale stringato di Vauro. Mi sembra di essere a un bar della Toscana, qualsiasi. Sì. Già lì che prendo il caffè. Esatto. Il livello è quello lì, va bene, insomma, ci sono abituato. Vabbè. Allora, invece chi, visto che abbiamo detto la polizia si incazza davvero, come diceva Fantozzi, uno dei rappresentanti sindacali, questo Tonelli, del SAP che abbiamo avuto spesso anche noi, perché con 1300 euro al mese non si può pensare di essere trasferiti a 1000 km e mantenere una famiglia in un contesto in cui non si ha nessun sostegno, e questo è soltanto da irresponsabile. Andremo in tutte le piazze del paese, abbiamo già iniziato dalla Puglia a promuovere una petizione, 7 forze di polizia no grazie. Allora, 7 forze di polizia no grazie, quindi sono già diventate 7, da 5 a 7 vedete in 10 secondi, però Del Debbio, a me è un pochino inquieta quando tra lì dice andremo in tutte le piazze, insomma vedere la polizia in piazza per manifestare effettivamente è un cortocircuito che significa che c'è qualcosa che sta sfuggendo di mano. Significa che c'è una funzione importantissima, una delle tre, perché il Ministero della Giustizia, Forze dell'Ordine e la Difesa Estera, lo diceva già tale Adam Smith, sono le funzioni fondamentali di uno Stato, quelle su cui lo Stato sicuramente deve spendere e non può lesinare, no? Poi tutto il resto, se non lo fa, diciamo, si può discutere, ma queste sono le tre sicure. Benissimo, allora, su queste tre sicure, poi l'ha detto tutti, grandi filosofi, eccetera. Su queste tre sicure, voglio dire, quella della sicurezza è quella su cui si lesina sempre di più. Sì, nel senso che voi magistrati, come diceva giustamente Rienzi, non si resina, se lo ordina in alcuni casi, sulla difesa, insomma, voglio dire, stanno benino, sì. E quelli che tutti i giorni sono lì a prendere cazzotti e botte, sono sì. Allora, su questo punto è ovvio che è tutto sbagliato, è non tutto c'è sbagliato. Dubbio. Va bene, ma io mi devo fermare, che si dice del debbio per l'inizio? Niente, si dice, di quinta colonna lunedì, niente. Beh, sai, oltre a questa storia della pubblica amministrazione che interessa molte persone, c'è una cosa che si chiama TASI e TARI, le non tasse, so se l'avete presente. Le tasse, sì. quella roba lì, parlerete anche di questo. Va bene, vi ringrazio, Paolo Del Debbio, lunedì, quinta colonna riparte su Rete 4 e Carlo Renzi, presidente del Codacons, alla prossima. Ma voi chi diavolo vi credete di essere? Siete solo hobbits! Voi mi assalite come un branco di lupi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere! Sì, il mondo è un posto veramente terribile! Sì, la guerra sta arrivando! Il mondo è andato al diavolo e voi siete tutti fregati! È tutto sotto sopra, ma a voi sta bene così, no? Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Forza cari italiani, forza cari debosciati d'Italia, alle 7:18 minuti, è giustamente venerdì, vi appropinquate ai vostri weekend, dunque è il caso di darvi una bella mossa. E allora, oggi che si chiude, giorno in cui si chiude la 70esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province, con un nulla di fatto. Ma c'è sempre la 71esima, caro Pietro Lacorte che mi guardi dalla regia, c'è sempre la 71esima. Ottimismo. Tra due giorni inizia quella che potrebbe essere la settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Allora, intanto noi parleremo di che cosa? Beh, parleremo di questo sciopero annunciato dalla polizia e questi blocchi degli stipendi, l'aumento degli stipendi per gli statali che hanno suscitato già un vivace dibattito, sono arrivati tantissimi messaggi, anche molti di insulto, certo. Io vorrei affossare migliaia di famiglie, certo. Io sono notorio per essere uno che vuole buttare sul lastrico e far fallire milioni di italiani, godo di questo. Io, vabbè, secondo molti messaggi, perché semplicemente ho detto che come mi scrivono tantissimi via SMS che lavorano nel privato, che guadagnano meno dei 1200-1300 euro al mese, che gli statali dicono siamo bloccati lì da anni, è vero, e non è una cosa bella. Io vorrei 10.000 euro di stipendio per tutti, di media, anche 20.000. Però molti che scrivono e lavorano nel privato dicono: beh, però almeno il dipendente pubblico un posto di lavoro ce l'ha, più o meno assicurato, più o meno, poi il mondo cambia, ma più o meno assicurato a vita. Nel privato non si arriva a volte a quelle cifre e magari da un giorno all'altro il posto di lavoro non ce l'hai più. Comunque, insomma, parleremo di questo. Avremo ospite Rossana Dettori, che è il segretario generale della funzione pubblica della CGIL. Avremo ospite Serena Sileoni dell'Istituto Bruno Leoni. Poi parleremo anche con il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, di questa vicenda dei bronzi di Riace con l'Expo che sta facendo discutere. Così come parleremo di abusivismo edilizio dalle 9. Insomma, come vedete, tanti temi. Arriveremo come sempre fino alle 9:30 e siamo pronti a leggere i giornali. Via! In questo venerdì 5 settembre, oggi il giorno l'ho azzeccato, con l'apertura del cosa fai? Miriam Lucchetti che mi fa bravo col pollice alto. Vabbè, insomma, ho letto sulla testata del Sole 24 Ore che è venerdì 5 settembre. Ieri ho sbagliato di un giorno, pazienza. Comunque, il Sole 24 Ore apre, così come altri quotidiani, con la decisione della BCE di tagliare i tassi. La BCE taglia i tassi, volano le borse. Questo è il titolo di prima pagina. Così Repubblica, Draghi, una spinta per la ripresa, riforme vere, poi la flessibilità. Mentre La Stampa, Draghi, mossa per la crescita. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda degli statali e in particolare le minacce di sciopero da parte della polizia. Polizia in sciopero, Renzi reagisce, così il titolo del Corriere della Sera, mentre il Fatto Quotidiano, tutti contro Renzi, polizia, esercito, marina, forestale, medici, vigili del fuoco. Libero invece, protesta senza precedenti, la polizia si incazza, questo è il titolo di prima pagina. Poliziotti verso lo sciopero anche per il secolo XIX e il Messaggero, la polizia minaccia lo sciopero. Europa fermati, venti di guerra, così titola il giornale contro le possibili sanzioni alla Russia. Mentre Avvenire, lo shock di Draghi, ora tocca ai governi, e il Manifesto appena nato, e questo è con la foto di Renzi e il segretario della NATO e David Cameron, è il titolo dedicato alla situazione della crisi internazionale. Ma voglio partire da che cosa? Da un articolo sul Fatto Quotidiano a firma Carlo Tecce che mi fa annunciare, perché non ne posso più, che nasce un nuovo premio ufficiale da oggi, da questo momento alle 7:23 minuti sulla rassegna stampa di Radio 24, dopo la carta costa che rimane, il premio Mani sul Volante, lo voglio dare l'articolo, il premio che daremo ogni giorno, l'articolo che più ci fa che troviamo sui giornali, e non poteva essere dedicato la prima tappa a che cosa? Al tema province. I nominati se li spartiscono il PD e Forza Italia. Vincitore del primo premio Mani sul Volante della rassegna stampa di Radio 24 è Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, che scrive: un po' ristrette, un po' insolventi, molto disordinate, però le province stanno bene. E tra un paio di settimane, senza che le piazze siano invase da ingombranti palchetti per i comizi, senza consultare i cittadini con relativo scrutinio notturno e proiezioni di sondaggisti, saranno perfino rinnovate e rimpinguate. Ma come? E ci saranno presidenti 64, consiglieri 760, presidenti di città metropolitane 8, consiglieri di città metropolitane 162. Certo, è una carovana un po' ridotta rispetto all'epoca di elezione di primo livello, questa infatti è di secondo livello, cioè politici votati votano politici. Ce n'erano 2005, adesso saranno 986, ma si scelgono tra loro entro il 12 ottobre, e non vi sentite in difetto se la notizia non vi tocca. Sparse con regole miste, ciascuna applica un decreto su misura. Le province si fanno simbolicamente più snelle. Ma ci sono, eccolo qui, entro il 12 ottobre rinnovati 64 consigli, costituite 8 città metropolitane, niente elettori, solo logiche di partito, rimangono le province, e vince dunque la prima tappa dell'edizione del nuovo premio Mani sul Volante, Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano. Oh, c'è da giorni, a proposito di province c'è anche una questione di regione, finalmente forse ci siamo con la Calabria, dove Gian Antonio Stella racconta da tempo quello che è il parto per il nuovo voto. Sapete che si deve rinnovare il Consiglio regionale della Calabria dopo che è stato accusato e condannato a 6 anni di carcere in primo grado Giuseppe Scopelliti, il presidente della regione Calabria, che poi si è dimesso, ma per mesi il consiglio regionale è rimasto in carica perché così prevedeva la legge. Ora è intervenuto il TAR, perché racconta Gian Antonio Stella, nonostante i 1000 espedienti per tentare di rimandare le elezioni, alla fine i giudici del TAR hanno deciso si deve votare in Calabria. L'articolo è: il giudice ordina il voto alla giunta imbullonata, ancora in sella dopo le dimissioni di Scopelliti. Lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 12, ma pare effettivamente che si sia arrivati a una decisione e ora il TAR voterà. Questo articolo di cronaca, con il quale vi voglio lasciare prima della pubblicità, invece è un articolo della quale si sta parlando molto, soprattutto a Potenza, ma ora la vicenda è finita su tutti i giornali, quando l'audio di un medico, Michele Cavone, chirurgo all'ospedale di Potenza, ora sospeso all'ospedale San Carlo di Potenza. In un audio finito poi sul sito basilicata24.it ha detto: abbiamo deliberatamente ammazzato una persona in sala operatoria. È una vicenda che sta facendo grandissimo scalpore, ovviamente c'è anche un'inchiesta aperta. Per la prima volta, racconta Repubblica, Giuliano Foschini, parla il chirurgo dell'audio. Io, perseguitato dal rimorso, ma l'errore fu del primario. Racconta Michele Cavone, stimato cardiochirurgo, oggi però sospeso dall'ospedale San Carlo di Potenza. Era il 23 maggio 2013. Una donna di 71 anni, Elisa, morì durante un intervento. Lui racconta: ho lasciato deliberatamente ammazzare una persona. Questo è l'audio che è stato registrato a sua insaputa, finito poi sul sito basilicata24.it. E ora racconta di quel giorno. Arrivai in ospedale alle 8 di mattina. Il primario Nicola Marraudino mi disse che in sala operatoria c'era un collega che aveva fatto la notte. Stavano operando la signora Elisa in quello che per noi era un intervento di routine. Raggiunsi il collega in sala, aveva appena iniziato ad aprire, ma mi stavo preparando quando un tecnico corse ad avvisarmi che c'era una complicazione, un'emorragia in corso. Non so cosa fosse successo, questo lo dirà solo l'autopsia. Non so neanche se quello che io suggerii, ma non fu applicato, avrebbe potuto salvare la signora. Certo, suggerii subito di fermare l'emorragia. In chirurgia la prima regola è tappare i buchi, ma non facemmo così. Arrivò il primario, decise di adottare un'altra tecnica e la paziente morì. Lei però non si è imposto. Non potevo, racconta questo chirurgo. Il primario è un mio superiore, non si può litigare al tavolo operatorio. Ripeto, io non so ancora oggi cosa ha ucciso Elisa, non posso denunciare nessuno sulla base di un mio parere medico. Beh, ma avete truccato la cartella clinica? Chiede Giuliano Foschini. Non io. Ho letto dopo qualche settimana in una relazione che ha firmato solo il primario cose non vere. Nel ricostruire la vicenda aveva indicato la tecnica che avevo suggerito, ma non la tecnica che avevamo realizzato. Perché non l'ha denunciato? Non ho mai visto la stesura finale del documento. Sì, ma lei nella registrazione dice «lo tengo per i coglioni», una frase orrenda. È vero. Ma quell'audio è frutto di tagli e manipolazioni. Il discorso era più ampio. In quel reparto c'è un grandissimo tasso di tensioni e litigiosità. Non a caso ci si registra. Mi sono sempre tirato fuori cercando di fare il mio mestiere. Ora sono stato colpito come da una pallottola vagante. Ma parla questo chirurgo, io perseguitato dal rimorso, ma dice l'errore fu del primario. Una vicenda davvero incredibile, incresciosa, che è finita sulle prime pagine dei giornali a seguito di questa intercettazione, e per la quale anche il ministro Lorenzin un paio di giorni fa ha detto: indagheremo a fondo. 24 mattino. Il tema del giorno sui giornali è del tema che tratteremo anche noi dalle 8:15 è questo blocco degli stipendi degli statali, il blocco dell'aumento, che ha suscitato subito la protesta per esempio delle forze di polizia, una scena senza precedenti con l'annuncio di uno sciopero. Per la verità nessun giornale scrive che le forze dell'ordine non possono scioperare per legge, non hanno neanche tecnicamente dei sindacati, hanno delle rappresentanze sindacali. Quindi solo il Messaggero oggi fa un articolo devo dire, nel quale scrive appunto questa cosa, tra poco lo vedremo. Comunque, da che cosa vogliamo partire, visto che poi approfondiremo poi alle 8:15 e vi invito già a chiamare dalle 8 per la verità, 800 24 00 24, parleremo di questo tema. Oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore intanto dà un dato molto molto significativo. Con questo blocco dell'aumento degli stipendi, sapete che ci saranno le fasce più sottopagate della pubblica amministrazione, riceveranno gli 80 euro. Ecco, chi riceverà gli 80 euro perderà dunque solamente, tra virgolette, solamente il 4,1% dal blocco degli aumenti del salario, mentre mediamente chi non guadagna questi 80 euro, chi non è in quella fascia, perderà il 9% con il blocco degli stipendi della pubblica amministrazione. Gianni Trovati in prima pagina del Sole 24 Ore scrive proprio così: con la sua estensione nel 2015 annunciata mercoledì, il lungo blocco dei contratti pubblici arriverà a costare in media l'anno prossimo il 9% dello stipendio netto. Per le fasce di reddito più basse interessate quindi al bonus di 80 euro, il costo cumulato delle manovre non si azzera ma scende sensibilmente, si attesta al 4,1%. E questo già è un dato da cui si può partire. L'altro dato è questo: il ministro Marianna Madia ieri ha incrociato il segretario della UIL Angeletti e Fabio Poletti sulla Stampa, racconta pagina 5 stralci di questo dialogo. La doccia gelata sulla testa dei dipendenti pubblici a contratto bloccato dai brividi al sindacato con il segretario della UIL Angeletti, che lo dice senza troppi giri di parole al ministro Madia, che incrocia sotto la tenda della festa dell'unità. Il problema del governo non sono i sindacati, sono i lavoratori, sono loro ad essere colpiti, sono loro che reagiranno, così dice Angeletti al ministro Madia, che replica, incassa la notizia e a chi le chiede se non sia il caso di avere un occhio di riguardo non dice né sì né no, ma dice testualmente: ci sarà un'attenzione massima alla polizia, ma non dico mai cose di cui non ho certezza. Ai sindacati chiedo idee per andare avanti, la nostra scommessa è tirare fuori l'Italia dalla crisi. Questo è il titolo della Stampa. Madia: prometto solo quello che so di poter mantenere. Sta di fatto che l'annuncio abbastanza clamoroso del COCER, e dunque la rappresentanza sindacale appunto di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche i sindacati di Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, che ieri hanno fatto questo comunicato: quando abbiamo scelto di servire il Paese per garantire difesa, sicurezza e soccorso pubblico, eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla patria e ai suoi cittadini, con condizioni difficili per mancanza di mezzi e risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è stato onorato dal popolo italiano a rappresentare le istituzioni democratiche ai massimi livelli non avesse nemmeno la riconoscenza per coloro che per poco più di 1.300 euro al mese sono pronti a sacrificare la propria vita per il Paese. Ecco, questo è il comunicato che ha annunciato lo sciopero, anche se di fatto di sciopero non si può parlare, delle forze dell'ordine. Come ha reagito Matteo Renzi? Come ha reagito il Presidente del Consiglio? Beh, c'è il retroscena quotidiano che Maria Teresa Meli racconta sul Corriere della Sera, scrive sul Corriere della Sera e racconta un po' quella che è la reazione di Renzi. Il titolo è questo: discutiamo, ma di tutto. 5 corpi di polizia sono troppi. E dunque un Renzi che dice ai suoi, dopo che il Corriere racconta di essere rimasto stupito, non si aspettava proprio questo sciopero annunciato delle forze dell'ordine, una novità assoluta. Ebbene, non c'era niente di nuovo, dice Renzi ai suoi, su questo blocco degli stipendi della pubblica amministrazione. Era già tutto previsto nel documento di economia e finanza, cioè il DEF, non era una novità. E poi ragiona il Premier con i suoi: 5 corpi di polizia, rivolta ai collaboratori, sono troppi, e dunque il governo aprirà volentieri un tavolo di discussione con le forze di sicurezza, che sono fondamentali per la vita del nostro paese. Se vogliono discutere, siamo pronti a farlo su tutto. Se vogliono discutere, appunto, sottolinea Renzi, riceverò personalmente gli uomini in divisa, ma non accetto ricatti. Ecco, lo definisce così, un ricatto. E poi ci sediamo al tavolo, discutiamo, ma allora si parla anche del fatto che 5 corpi di polizia sono troppi. Così Matteo Renzi, che dunque reagisce in maniera insomma abbastanza veemente, come dire, ragioniamo, ma ragioniamo su tutto. Ovviamente tutti i giornali sono pieni di racconti, per esempio La Stampa, Nicolò Zancan racconta ciò che il sindacato COISP ha portato alla luce di un caso un pochino estremo: agente scelto, 20 anni di servizio, 1.420 euro al mese di stipendio, separato, 2 figli a carico, praticamente disperato, fino a 3 giorni fa dormiva in auto a Milano. Perché dice: devo dare 650 euro alla mia ex moglie, non posso permettermi l'alloggio. Mi lavavo al bar prima di prendere servizio, non ho detto niente a nessuno per 3 mesi. Poi l'hanno visto rannicchiato sul sedile posteriore della sua Fiat Punto parcheggiata fuori dalla caserma Sant'Ambrogio, e allora finalmente sono riusciti a trovargli una stanza. Ecco, inizia così il racconto di Nicolò Zancan sulla Stampa, pagina 4, per raccontare una delle storie di difficile sopravvivenza con 1420 euro al mese, però una situazione, come dire, 2 figli, separazione e le spese annesse. Come dicevo, il Messaggero racconta a pagina 5 come questa sia una provocazione, e una provocazione che non si ricordi a memoria nella storia della Repubblica. Tanto dovrebbe bastare a dare la misura dell'esasperazione delle forze di polizia. È probabile che l'annunciato sciopero generale non ci sarà mai, né entro la fine di settembre né dopo. Se infatti a poliziotti è vietato dal regolamento di servizio scioperare, per i militari si tratterebbe di mancata consegna, un gesto di insubordinazione gravissimo con tanto di processo. Insomma, saremo davanti a uno scontro istituzionale che coinvolge tutte le forze militari del paese. Forse già la parola basta e lo scontro istituzionale è in atto. E sta di fatto che staremo a vedere. Comunque il tema è molto interessante, ovviamente è molto dibattuto, ne parleremo alle 8:15, per esempio a partire dallo spunto di 2 articoli, scrive il Fatto Quotidiano con Marco Palombi a pagina 4 sotto il sottotitolo La rapina del secolo, agli statali sottratti 20 miliardi in 5 anni. Questo potrebbe essere un punto di partenza, oppure quello che scrive Libero con Sandro Iacometti a pagina 4, è un'analisi dell'ARAN, cioè l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e il titolo è questo: nella pubblica amministrazione è sempre meglio del privato, lavori meno e prendi di più. Questo da uno studio comparato degli stipendi medi. Ripeto, non vogliamo e non voglio metterla sullo scontro, come dire, tanto meglio tanto peggio, cioè i privati alzano la testa e dicono vabbè, scusate, è vero, i dipendenti pubblici hanno lo stipendio bloccato, però almeno hanno il posto tra virgolette garantito a vita. E non voglio più sentirmi dire da nessuno dopo questo discorso che sono uno che vuole affamare le persone e vuole buttarle sul lastrico. Non lo so, Mauro Meazza, tu che ne pensi su questo dibattito? Buongiorno, che tu voglia affamare qualcuno? Pensavo volessi affamare me, buongiorno. No, assolutamente. No, perché mi accusano quando uno dice, beh, ma nel privato, insomma, dopo tutto il pubblico, e ci dispiace che gli stipendi siano bloccati, però nel privato c'è gente che ha perso il posto di lavoro dal giorno alla notte, almeno sono questo... Effettivamente, sì, ci sono anche dei casi di riduzione delle retribuzioni. Esatto, no? Esatto, almeno nel pubblico non accade, ti dicono subito, ci vuoi uccidere, ma chi vuole uccidere? Cioè, è un dato di fatto, o no? No, purtroppo qui, come dire, nessuno vuole uccidere nessuno, c'è la necessità drammatica di trovare delle risorse per una possibile ripresa, e quindi come vedi ieri, come vedi oggi sul Sole 24 Ore della svolta di Draghi, la decisione di Draghi, no? Per cercare, certo, di far ripartire i finanziamenti, che c'entra con il possibile sciopero della polizia? Beh, c'entra, perché se ripartisse un pochino di ripresa, un pochino di consumi, allora tutti questi discorsi potremmo con grande sollievo lasciarceli alle spalle. Poi naturalmente per me e per te che, come dire, lavoriamo molto poco, vabbè, quello è un altro paio di maniche. Sì, che poi lavoriamo, ecco. Diciamo. Ecco, lavora adesso, stiamo attenti coi verbi. Sai che però c'è un interessante bando del progetto, diciamo così, della UE per aiutare il lavoro in altri stati dell'Unione medesima, cioè il lavoro all'estero all'interno dell'Unione. Sì. Si possono anche presentare dei progetti da parte di organizzazioni sia profit che no profit, appunto per incentivare il lavoro da parte di un lavoratore specialmente giovane che voglia andare a lavorare in un altro stato. Dove ho letto tutto questo? Indovina un po'. Su Norme Tributi? Bravo, proprio lì, proprio nelle pagine di Norme Tributi oggi sul Sole 24 Ore, dove trovi tutti i dettagli. Ti avviso che la malattia tattica, Cioè, sì. Sai quelle malattie infilate il venerdì, il lunedì? Sì, questa è bellissima, l'ho letta. Caro mio, quelle lì non, la Cassazione ha detto no, portano al licenziamento. La malattia quindi, tattica, sì, chi si piazza malattia la malattia tattica. Il venerdì per farsi un bel weekend magari. Sostanzialmente magari il lunedì per allungarlo, magari perché ti hanno detto che ti tocca un turno un po' disagiato o disagevole e quindi tu ti piazzi una malattia tattica. Cioè più disagevole della sveglia alle 5, cosa c'è? Più disagevole, perché tu ti svegli alle 5, caspita, sì, però per venire a leggere i giornali, diciamo la verità. Sì, esatto, non per lavorare, è quello no, sempre via. Il problema, se lavorassi potrei se tu lavorassi, dire qualcosa. Sarebbe molto presto. Ma siccome non lavoro, va bene, basta. E lo stesso vale per me, naturalmente. E non darmi del fallito, perché guarda che un giudice del Veneto ha scritto alla Corte Costituzionale, ha detto ma possiamo ancora usare la parola fallito, perché guardate che è un po' dispregiativa, che facciamo, perché non la togliamo dalla norma? Adesso vedremo che cosa dirà la Corte Costituzionale o l'Accademia della Crusca, non so se in questo caso ecco bisogna punto. Rivolgersi a più di una responsabilità. Senti, fuor di celia, come dicono quelli bravi, fuor di celia, sul Sole 24 Ore oggi gli effetti della decisione della BCE. Della ecco, questo mi interessava centrale. Perché tu ieri ce l'hai anticipato, come incide sui mutui quello che Draghi e la BCE hanno deciso ieri. E infatti oggi trovi, diciamo, una serie di istruzioni, il mutuo variabile ce ne giova di questo passaggio, mutuo tasso variabile, chiaramente a rovescio i rendimenti sui conti correnti, per dire la cosa più popolare, non se ne gioveranno. C'è da dire che oramai questi rendimenti, non so il tuo, forse tu avendo un grandissimo patrimonio spunti condizioni migliori, il mio era già abbastanza da prefisso internazionale, quindi non credo che questa ulteriore discesa sarà per me particolarmente dolorosa. Vabbè. Vediamo, poi c'è tutto il filone naturalmente del prestito mirato, il TLTRO, ma vabbè, per questo ti rimando al Sole 24 Ore e poi ti interrogo magari settimana prossima. Ottimo, non vedo l'ora. E allora, caro Mauro, inizia da adesso praticamente il tuo lunghissimo weekend. Lunghissimo, ma già anche durante la settimana, sì, non è che insomma, no? È ovvio. Abbastanza rilassati, allora dedichiamoci al weekend e soprattutto una sola parola: traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Evviva, allora, per dare un corollario, una chiusura alla vicenda delle forze di polizia, che poi tratteremo dalle 8:15, ricordate quel poliziotto che durante le manifestazioni a Roma fu immortalato mentre teneva il piede sullo stomaco di una ragazza a terra? Ebbene, racconta oggi il Messaggero e diciamo la coincidenza con questa protesta delle forze di polizia è anche una coincidenza di cronaca che dà ancora più risalto alla notizia. Quel poliziotto ora rischia il processo. Si chiama Massimiliano Addario, non si era presentato in questura per ammettere che l'agente ripreso durante le manifestazioni dello scorso 12 aprile era lui, ora rischia il processo perché il PM Eugenio Albamonte ha chiuso il fascicolo e le accuse sono nei suoi confronti di lesioni aggravate da futili motivi, abuso di potere e dalle circostanze che rendevano impossibile la difesa della vittima. Così racconta Valentina Errante a pagina 16 del Messaggero, rischia il processo. Per quel che riguarda la notizia di cronaca, mi ha colpito, visto che si parla molto di tasse, lo abbiamo fatto ieri, è il periodo delle tasse, Tasi, Tari, IMU. Ebbene, racconta Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera che con lo Sblocca Italia c'è questo tipo di proposta: arriva lo sconto sulle tasse comunali per chi sistema uno spazio pubblico. Lo Sblocca Italia prevede questo, che ne so, un gruppo di condomini riesce a trovare un accordo, miracolosamente decide di risistemare la strada davanti al palazzo chiudendo le buche, cancellando magari le scritte dai muri, comprando un paio di fioriere, ebbene il comune ringrazia e concede in cambio uno sconto sulla Tasi, o che ne so, i negozianti che affacciano su una piazza si fanno carico della manutenzione di quel pezzo di città, aggiustando il marciapiede, sistemando le aiuole, sullo slancio mettono persino un piccolo palco per i concerti, il comune ringrazia pure loro e rinuncia per qualche mese alla tassa sui tavolini, cioè quella per l'occupazione del suolo pubblico. E beh, che ne pensate? È interessante questo patto civico, negli Stati Uniti c'è da decenni, e qui in Italia subito diremo no, io pago le tasse quindi ho diritto a tutto, ecco, e va bene, e così le città senza uno spirito civico di collaborazione vanno in mille pezzi e siamo solo magari capaci di protestare. Io la trovo una cosa assolutamente giusta, perché dà la possibilità alle persone di occuparsi in prima persona delle cose che poi sono di tutti, senza semplicemente dire pago le mie tasse quindi pretendo che il marciapiede sia a posto. Comincia a curarlo, comincia a prendertene cura, magari evitando che il tuo cane caghi proprio sotto casa senza pulire, no? Sono molto arrabbiato nei confronti dei padroni dei cani che si comportano male, dei padroni, non con i cani, con i padroni. Va bene, abitando a Milano so che mi capirete. Allora, per quel che riguarda invece l'attualità internazionale, c'è grande dibattito sulla questione della Russia. Sapete che i grandi sono riuniti alla NATO, il tema è anche se arriva una tregua in Ucraina, anche se si combatte per la verità, ma pare uno spiraglio di tregua ci possa essere oggi dalle 14, ma Stati Uniti e anche l'Italia, anche l'Unione Europea dicono non è abbastanza, ci sono in arrivo le sanzioni sulla Russia, nei confronti della Russia. Questo fa dire al giornale, sapete che insomma tra l'altro la linea di Berlusconi è essere molto amico di Putin, con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, il titolo di prima pagina è Europa fermati, trascinati da Obama stiamo per inasprire l'ostilità contro Putin, ma tutta la verità che dobbiamo sapere prima che sia troppo tardi è un'altra. Per esempio racconta il giornale che Putin è uno di quelli che riesce a fermare gli islamici, e questo è un punto di merito per il giornale per la questione della battaglia anche alle minacce islamiche. E comunque, scrive Alessandro Sallusti, è sbagliato imporre le nuove sanzioni alla Russia, questo è l'editoriale di prima pagina che continua a pagina 3. Devo dire che però sul tema internazionale mi interessa citare solo l'articolo di Giuliano Ferrara oggi in prima pagina del Foglio, perché è un articolo molto molto duro. Il titolo è Con l'Islam è guerra di religione, e questo sapete che è un dibattito che va avanti da tempo se sia una guerra di religione o no, ma è il finale di articolo del fondo di Giuliano Ferrara che colpisce molto, perché è un finale molto molto cruento, lo stesso Ferrara lo ammette, e la premessa è questa. Riguardo all'ultima decapitazione, è una guerra di religione della cui ferocia ultimativa e coesiva appunto religiosa solo un fronte è consapevole, il loro. La madre dell'ultimo reporter ucciso in nome della giustizia divina si dice convinta che l'Islam è stato tradito quando su ordine di un califfo, uno sgherro occidentale tutto vestito di nero, stufo probabilmente di fare il DJ, ha impugnato la lama, ha tolto dal busto il collo di un figliolo d'Occidente. E niente è proibito a una madre addolorata e trafitta senza pietà nell'amore che solo è suo. Ma non è così. Lo sappiamo, è ideologico esorcizzare il rito del nemico, provarsi a diminuirlo, essere ciechi di fronte alla sua caratura feroce di bene in cui si specchia il nostro impietoso male. E ancora scrive Giuliano Ferrara che Bernardo Valli su Repubblica continua a insinuare analiticamente che tutto derivi dall'errore di Bush, Cheney e Rumsfeld, che i nostri nemici li abbiamo creati sciaguratamente noi. La buona intenzione c'è tutta per un commentatore corretto e di sinistra, ma non è così. E poi c'è questo finale di Giuliano Ferrara che dice: so di dire qualcosa di sconcertante, ma non si risponde a questa altezza di sfida, a questa brutalità santificante con lo Stato di diritto, con un'idea di polizia internazionale, con la denuncia della violenza. L'unica risposta è in una violenza incomparabilmente superiore. Così Giuliano Ferrara, per lui è guerra di religione, e alla violenza islamica citata da Giuliano Ferrara, si deve rispondere con una violenza incomparabilmente superiore. Vabbè, c'è spazio solo per dire che c'è grande polemica, come racconta La Stampa, per il permesso ZTL a 1000 euro a Roma. Voi che siete di Roma sapete bene di cosa sto parlando, ne scrive Lorenzo Vendemiale a pagina 18 della Stampa. Ci sarà il TAR che si dovrà pronunciare, un paese sempre in cui il TAR si deve pronunciare. Su ricorso del Codacons del nostro amico Carlo Rienzi si dovrà pronunciare il 3 dicembre il TAR del Lazio per accogliere o respingere le istanze delle associazioni che dicono 1000 euro per il permesso ZTL a Roma voluto dal sindaco Marino è troppo. Ma siamo al momento conclusivo, il momento del secondo premio, quello che rimane storico, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi stravince, sì, in maniera polemica, l'intervista che Tommaso Ciriaco fa a Fausto Bertinotti, pagina 19, sono liberale, il Papa è un profeta, Bertinotti, basta, andiamo oltre. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 8 e 18 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il Corriere della Sera scrive che Matteo Renzi, parlando con i suoi collaboratori dello sciopero annunciato dalle forze dell'ordine, abbia parlato di ricatto. Va bene, discutiamo, dice Renzi, riceverò gli uomini in divisa, ma non cedo a ricatti. Ecco. Fa bene secondo voi, cari ascoltatori? 800 24 00 24 è il numero per intervenire. Comunque avete capito, parliamo del blocco degli aumenti degli stipendi della pubblica amministrazione annunciato dal ministro Madia anche per il 2015. Un blocco che Renzi stesso dice ma era previsto, c'era scritto nel documento di programmazione finanziaria, non c'è in realtà una novità. In realtà la novità è che i sindacati sono, come si suol dire in questi casi, sul piede di guerra, sono molto arrabbiati. C'è da dire che da due giorni, da quando ne parliamo qui, anche ci scrivono moltissimi lavoratori dipendenti del settore privato in Italia. Ci scrivono, e questo è un approccio che vogliamo anche avere questa mattina, reazioni in alcuni casi anche di rabbia, dire beh, ma i dipendenti pubblici si lamentano, va bene, non siamo contenti se il loro stipendio viene bloccato, ma noi del settore privato cosa dovremmo dire? Loro, i dipendenti pubblici, hanno lo stipendio bloccato ma un posto di lavoro, diciamo, garantito più o meno a vita, mentre il dipendente privato, lo sappiamo, spesso lo stipendio se lo vede tagliato, in alcuni casi il posto di lavoro si perde e ciao. Ecco, ripeto, non voglio metterla in una sorta di scontro sociale tra chi sta peggio, questa è l'ultima cosa, però per amore di verità parliamo anche di questo aspetto e parliamo anche del fatto che le forze dell'ordine minacciano uno sciopero che non ha precedenti nella storia della Repubblica, anche perché le forze di polizia per regolamento hanno il divieto di scioperare e per un militare, penso ai carabinieri, scioperare vorrebbe dire mancata consegna, quindi sarebbe un atto anche penale dal punto di vista militare. Comunque parliamo di questo con Rossana Dettori, che saluto, è la rappresentante dei dipendenti pubblici per la CGIL. Buongiorno e benvenuta, grazie segretario. Così come saluto Serena Sileoni, che è vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno. Dettori, intanto le piace l'idea, come reagisce quando sente Renzi parlare di ricatto? Non l'ha fatto pubblicamente, ma pare che l'abbia detto ai suoi collaboratori. No, l'ha fatta anche pubblicamente, perché l'abbiamo sentito tutti nei TG ieri sera, quindi l'ha detto. Ma reagisco male, nel senso che questo è un governo che non tollera assolutamente voci di dissenso rispetto a ciò che dicono loro, e quindi anche la possibilità di utilizzare uno strumento che è quello previsto tra l'altro dalla Costituzione, certo ha ragione lei, non per i carabinieri, che lo sciopero, la mobilitazione diventa un ricatto. Quindi penso davvero che questo governo stia esagerando con le parole. Sta esagerando con le parole, però le voglio far sentire ciò che il ministro Madia ha detto ieri alla festa dell'unità, senta le parole del ministro Madia. Due cose noi abbiamo fatto sugli stipendi della pubblica amministrazione appena siamo arrivati al governo. La prima è stata quella di mettere un tetto a chi guadagna di più, e la seconda è stata dare subito una boccata d'ossigeno a tutti i lavoratori economicamente più deboli, cioè a quelli che guadagnano di meno. Quindi un fatto concreto di equità. Quello che io voglio dire è che questo è un governo che fa e che non alimenta aspettative perché ha una visione strategica e quindi delle priorità. La sensazione, mi pare, dottore, a dire qualcosa stiamo facendo, ma non possiamo alimentare aspettative se non ci sono soldi rispetto a quello che non si può fare. È abbastanza, secondo lei? Guardi, io no, assolutamente no, anche perché la ministra dovrebbe mettere a mola le cose che dice. 2 mesi fa la ministra ha dichiarato che era un legittimo diritto quello dei lavoratori pubblici avere il rinnovo del contratto e che nel 2015 questo governo avrebbe sbloccato il contratto nazionale norma economico. Quindi la cosa che dico alla ministra è che si mettesse in pace con se stessa, nel senso che è lei che aveva promesso lo sblocco dei contratti nazionali nel 2015. Ma gliel'ha promesso personalmente? Cioè a voi aveva promesso? Sì, no, aveva fatto, no, la ministra non ha mai incontrato perché poi parla, ma non hanno nessuna capacità di entrare in relazione. Lo ha detto, basta andarsi a vedere le dichiarazioni della ministra di un paio di mesi fa alla stampa e nelle varie interviste, per dire quando l'Istat ha tirato fuori tutti i dati sull'impoverimento dei lavoratori pubblici dal punto di vista economico, lei dichiarò che era legittimo il rinnovo del contratto dei lavoratori pubblici. Poi lo disse anche una volta a noi, l'unica volta che ha incontrato le organizzazioni sindacali, che appunto rivendicammo il contratto, il diritto al contratto, e lei ci dice che questo governo non si sarebbe sottratto all'avvio del rinnovo contrattuale. Quindi mi scusi, fa un po' a pugni secondo lei quando Renzi fa notare che nel DEF è già scritto tutto? E peraltro attenzione, perché nel DEF se per questo c'è scritto che il blocco rimarrà fino al 2020, quindi stando a quel documento, se quello fa fede, non solo quest'anno ma anche per i prossimi 6 anni ci saranno dei problemi, no? Ma infatti la novità non sta nel fatto, perché noi lo sapevamo, questo, il fatto che nel DEF fosse scritto che c'era il blocco, noi eravamo certi, perché avevamo già protestato, avevamo già detto che era inaccettabile. E quindi non faceva fede quello lì? No, per cui non si chiama, chi è che ha rilanciato il tutto sono stati loro stessi quest'estate ad agosto col balletto del si sta discutendo nei corridoi del Ministero dell'Economia il blocco dei contratti. Intervistati i sottosegretari, basta andarsi a sentire cosa diceva Baretta, non è vero, non si sta discutendo di questo, cioè sono loro stessi che hanno alimentato una speranza, la situazione, una da una parte c'era una speranza e dall'altra l'hanno smentita, l'ha smentita lei uscendo dal Senato, fra l'altro, se era così certo tutto, perché a meno che non volessero aprire un conflitto vero e spostare questioni sui lavoratori pubblici per non affrontarne altre. Questo poi dopo è una sua opinione sulla quale poi magari ci concentreremo tra un attimo. Prima vorrei coinvolgere Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Sileoni, io l'ho messa così, ma non per metterla su un conflitto privato pubblico, però guardi che sono tantissime le persone e a me dispiace, perché poi si fa una guerra veramente a dire tu stai peggio, tu stai un po' meglio di me, tu stai un pochino peggio, è sbagliato. Però si può anche leggere così questa fase storica, come dire, vabbè, almeno i dipendenti pubblici uno stipendio ce l'hanno ed è assicurato. Allora, premesso che ovviamente non deve essere una corsa a chi sta peggio, una specie di competizione a ribasso, però è evidente che un atteggiamento, che è quello che hanno i sindacati nelle loro dichiarazioni che stanno facendo, compresa quella della Camusso ieri, un atteggiamento per cui ci si ritiene indignati per aspettative smentite piuttosto che indignati perché si chiede sempre i soliti noti, è un atteggiamento che non guarda al di là del proprio naso, perché di aspettative smentite è lastricata la via di ogni governo, questo compreso, e di certo, come si sa, c'è soltanto una cosa nella vita, per cui pensare che essere sorpresi del fatto di conoscere a mezzo stampa la decisione definitiva sullo sblocco per l'anno prossimo, pensare che sia una modalità scorretta, significa semplicemente non capire che fino ad oggi invece si è stati privilegiati in una negoziazione delle retribuzioni che la più parte degli italiani, lavoratori autonomi piuttosto che dipendenti privati, non hanno. hanno, di cui non hanno goduto. Secondo lei fa bene Renzi a parlare di ricatto? O è una reazione uguale, contraria, molto energica di fronte alla minaccia di sciopero che non si addice a un Presidente del Consiglio? Ma guarda, di parole forti questo Presidente le usa quotidianamente, per cui non fa bene nella misura in cui ne ha usate altrettanto forti per altri contesti, quindi non mi sembra in linea un po' con il suo vocabolario. Certo è un ricatto quello di pensare appunto di poter continuare a negoziare in via del tutto sganciata dal contesto lavorativo italiano e dalla perdita anche di potere d'acquisto non soltanto dei lavoratori dipendenti ma di tutti i lavoratori. Questo sì è una modalità ricattatoria, ma soprattutto anche miope di vedere la situazione del paese. Non si tratta qui del blocco dei salari dei dipendenti pubblici, noi stiamo vivendo da anni il blocco di tutto il sistema produttivo. Sì. E quindi è poi anche del potere d'acquisto. Allora, allargare un po' l'orizzonte credo che debba essere la prima delle funzioni di chi tutela i lavoratori. Poi è ovvio, ogni sindacato tutela una fascia di lavoratori, una categoria di lavoratori, però certo è sufficientemente ricattatorio una modalità di difesa che si arrocca senza guardare una situazione piuttosto complicata, non soltanto a livello generale, pubblici, certo. Oggi il Sole 24 Ore con Gianni Trovati racconta quanto è la perdita del salario per questo mancato aumento per i dipendenti pubblici. Chi riceverà gli 80 euro dei dipendenti pubblici vedrà una perdita del salario in virtù di questo blocco degli aumenti del 4,1% salario netto, mentre quelli che non ricevono gli 80 euro della pubblica amministrazione, quelli che dunque sono fuori questa fascia, perderanno il 9%. Le chiedo, Dettori, la CGIL è pronta a dire, due giorni fa avevamo il sindaco di Locri, una vicenda che è finita su tutti i giornali, del sindaco che scrive a Gesù Cristo perché c'è l'assenteismo nel suo comune e non sa più che fare. La CGIL è pronta a dire, va bene, facciamo la battaglia per lo sblocco dei contratti, però quelle persone, se è accertato che sono assenteisti cronici per finta, le prendiamo a calci e le sbattiamo fuori dalla pubblica amministrazione. Guardi, io sono prontissima a fare ciò che ha appena detto lei. Quando ci sono fenomeni di assenteismo, noi l'abbiamo detto da tempo, lo dico tutte le volte che vengo intervistata, bisogna avere il coraggio di mandarli via. Le norme contrattuali ci sono, quei dipendenti vanno licenziati. C'è qualcuno che non lo fa mai però, perché poi il dirigente deve avere il coraggio, il sindaco invece di rivolgersi a Dio prendesse il dirigente del comune e facesse fare i provvedimenti per il licenziamento di questi lavoratori. Quindi non c'è nessuno dal sindacato che difende questi assentisti, anche perché sono il dramma e il danno per i lavoratori pubblici. Io però vorrei tornare anche alla cosa che ha detto prima, per cui guardi, io sul rinnovo contrattuale, norma economico, se qualcuno ci chiama, perché anche qua ci sono delle bugie che vengono dette con molta nonchalance da parte della ministra, non è vero che non abbiamo fatto proposte, gliele abbiamo inviate, sia sulla riforma della pubblica amministrazione, sia sul rinnovo contrattuale. Peccato che la ministra, invitata tre volte a un confronto con le organizzazioni sindacali, non è mai venuta, per cui troppo comodo dire che non abbiamo proposte quando poi non le vuoi ascoltare. Ma noi siamo disponibilissimi a fare tutti i ragionamenti che servono per il rilancio della pubblica amministrazione, per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, per la questione di merito dei lavoratori della pubblica amministrazione, ma questo non può essere che si contrappongono lavoratori pubblici a lavoratori privati. Mi dispiace, è dal 2010 che i lavoratori pubblici non hanno il rinnovo contrattuale, non è da oggi. Sempre protestato anche nei confronti degli altri governi. Con questo governo la reazione sulla protesta però sta diventando quasi però scandalosa. Sempre nel non voler mettere nessuno contro nessuno, lì non c'è il blocco, ma che dice lei di fronte a molti privati che invece dicono io non solo non ho il blocco, guardi, non ho più il posto di lavoro dove andare dal giorno alla notte? Ma noi abbiamo nella categoria dei lavoratori pubblici, io ho una quantità pari a 12 contratti nazionali di lavoro privati. Quindi so perfettamente cosa sono i settori privati, perché noi abbiamo tutta la sanità privata, tutta l'igiene ambientale, che non è un dipendente pubblico, quelli classici in cui risorse, sì. Però quando noi proclamiamo lo sciopero nei confronti dell'igiene ambientale, nessuno parla di ricatto. I lavoratori, i datori di lavoro privati non ci accusano di ricatto davanti a ciò, e nel privato i contratti si stanno rinnovando. Pensate al contratto dell'edilizia, pensate al contratto della, sì, degli, sì, alimentaristi. Non mi pare che lì non ci sono, per noi, a noi viene negato il diritto, nemmeno si apre il tavolo, e non di più. E questo governo è questo che voi lamentate. No, beh, questo che voi lamentate molto. Poi dopo la pubblicità ripartiremo anche per cercare di capire questa storia delle forze dell'ordine, che davvero si sono arrabbiate, per usare in realtà il titolo di Libero, è questo: la polizia si incazza. Fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incazzò davvero. Non avete scampo, arrendetevi. 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:36 minuti a parlare con Rossana Dettori, che è segretario generale della Funzione Pubblica CGIL, e con Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, del blocco degli aumenti di stipendi alla pubblica amministrazione e la conseguente minaccia di sciopero da parte delle forze dell'ordine. Davvero qualcosa di clamoroso, perché probabilmente non ci sarà. Io sono convinto alla fine che tutto rientrerà. Renzi ha detto: sono pronto a discutere con le forze dell'ordine, che, lo ripeto per l'ennesima volta, tra l'altro, come regolamento disciplinare e come anche regolamento da seguire, non ha hanno di fatto un diritto, non hanno allo sciopero, non hanno neanche delle rappresentanze sindacali, dei sindacati vere e proprie, ma delle rappresentanze sindacali, per l'appunto. Vorrei sentire i tantissimi ascoltatori che ci hanno chiamato e ci stanno chiamando, cominciare da Giampiero, dalla provincia, solo a dirla mi viene un po' l'urticaria, Barletta Andria Trani. Buongiorno Giampiero, ma è benvenuto, non è colpa sua ovviamente per la provincia che le rappresenta. Dica Giampiero. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa. Qui si continua a dire da più parti che io naturalmente sono appartenente alle forze dell'ordine, all'ordinamento, ecco, militare, ecco, e sono anche un militare. Sì. Allora, qui si continua a dire che noi siamo in agitazione perché vogliamo il rinnovo dei contratti. Non è così. Noi prendiamo, in questi 5 anni in cui siamo stati bloccati anche per gli scatti di anzianità, noi siamo bloccati per gli scatti di anzianità e di grado. Sì, io sono maresciallo aiutante da quattro anni e percepisco lo stipendio da maresciallo capo, come i nostri maggiori, i nostri tenenti colonnelli, che percepiscono lo stipendio da capitano, perdendo centinaia di euro, diciamo, in un anno. Quindi c'è anche una questione di grado siamo bloccati negli emolumenti, negli scatti di anzianità, negli scatti di grado. Noi non è che chiediamo il rinnovo del contratto. Senta, che però, è no, stato, ma è chiaro, è lei che fa parte delle forze dell'esercito, sì, in questo caso, che ne pensa del, perché sa, i dipendenti pubblici in generale che scioperano, se ne sono visti, se ne vedranno, inquietano poco, ma quando le forze dell'ordine, creando anche uno scontro istituzionale con un'altra istituzione, cioè la politica, in questo caso il governo, dicono scioperiamo, lei che reazione ha? Senta, noi siamo dei militari, noi non possiamo scioperare, ma si renda conto che noi torniamo a casa e troviamo le nostre famiglie che ormai non ce la facciamo più, siamo alla fame. Guardi, noi abbiamo i nostri figli, abbiamo le nostre famiglie che sono alla canna del gas, perché non riusciamo più, ci sono colleghi che hanno 2, 3, 4 prestiti, cioè non è possibile, in 5 anni è cambiato il mondo, noi siamo bloccati da 5 anni, ma perché deve essere, dobbiamo essere trattati come cittadini di serie B? Per quale motivo? La protesta ci sarà, secondo me ci sarà, perché nelle caserme c'è un malcontento generale che non ho mai visto prima in 27 anni di servizio che ho. Qui la situazione è forse sottovalutata. Sì. Lei ci ha detto quanto quanto ha detto che prende Giampiero lei di stipendio? 1.300? Io dopo 27 anni di servizio, con il grado che ho, prendo 1.600 euro al mese. Compresi di indennità e tutto? Tutto quanto. Il massimo che riceve è 1.600. Tutto qua, ma le dico che io sono pagato dal grado precedente che avevo prima, 4 anni fa. noi non manifestiamo per la questione dei contratti che sono pure bloccati al 2010. E il blocco non del, è quello, dello scatto ma, dei ma gradi. Bloccate, ma almeno gli scatti. No, ma questo è chiarissimo, Giampiero. Delle responsabilità superiori, ma anche i nostri ufficiali. Perché un tenente colonnello deve avere delle responsabilità, tenente colonnello, e prende lo stipendio da capitano? Ma è una cosa, un'assurdità. È chiarissimo, Giampiero, così diamo spazio a tutti. Prima degli altri ascoltatori, Serena Sileoni, vabbè, a parte sentito lo sfogo di questo rappresentante dell'esercito, oggi sul Libero c'è scritto questa analisi dell'ARAN, l'agenzia che per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il titolo è emblematico: nella pubblica amministrazione è sempre meglio del privato, lavori meno e prendi di più. È un titolo brutale o corrisponde al vero? È un titolo che prende atto del fatto che la lamentela che può fare un dipendente pubblico è quella appunto di un mancato rinnovo delle condizioni retributive, ma molto meno rispetto a un dipendente privato o un lavoratore autonomo di perdere il posto. Si diceva le cose che abbiamo sentito anche in trasmissione, le proteste sono per il fatto che gli stipendi non aumentano. Forse non si sono accorti che ci sono tanti dipendenti, lo diceva lei anche all'inizio della puntata, privati questa volta, che non solo non hanno un adeguamento degli stipendi, ma perdono il lavoro perché la loro impresa fallisce, e questi di certo non sono una voce rotta nel fenomeno delle proteste contro il governo. Allora a me piacerebbe che si vada appunto a guardare un po' al di là della propria visuale, per chiedere in maniera veemente non tanto l'adeguamento delle retribuzioni per il proprio settore, quanto piuttosto un recupero del potere d'acquisto e quindi della forza del proprio reddito, che sarà dato a livello generale semplicemente da una misura: l'abbassamento delle tasse. Finché questo governo con una mano darà gli 80 euro e con l'altra annuncerà la proroga del blocco degli stipendi, farà semplicemente il gioco delle tre carte. Allora sentiamo Silvano dalla provincia di Pesaro Urbino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo, che sti dipendenti hanno ragione a metà. Per questo motivo, perché io parlando tempo fa con una dipendente della Camera di Commercio, mi diceva che il suo superiore ha preso un premio di produzione alla fine dell'anno per il lavoro svolto da sti dipendenti. Allora io voglio dire questo: se il lavoro è stato svolto dai dipendenti, perché questi premi di produzione, invece di darli ai superiori, non vengono spalmati ai dipendenti? È semplice, Silvano, perché in Italia, nonostante tutti si riempiano la bocca di questa parola meritocrazia, la meritocrazia non esiste. E però, Dettori, non esiste anche per colpa dei sindacati. Guardi che questa è un'accusa che vi fanno molti. Guardi, no, io non mi sottraggo alle mie responsabilità, compreso il fatto che probabilmente dovevamo essere più coraggiosi nell'applicare le norme che poi nei contratti abbiamo scritto. Quindi siccome si valorizza il personale, come si retribuisce rispetto alla produttività del personale. Ma su questo, se il governo e il ministero avessero la pazienza, noi abbiamo già detto che bisogna cambiare, abbiamo anche scritto che siamo disponibili a cambiare e a ragionare seriamente sul meritocrazia, io direi più che di meritocrazia, di valutazione del lavoro e dei servizi, perché sì, nel lavoro pubblico non c'è soltanto il carabiniere, l'impiegato, abbiamo gli infermieri, abbiamo i vigili del fuoco, abbiamo chi assiste gli anziani nelle case di riposo, abbiamo le insegnanti di scuola materna, c'è un pezzo di mondo del lavoro pubblico che è proprio molto più complicato anche di alcuni pezzi del settore privato su cui ragionare. Noi però abbiamo detto che siamo disponibili ad aprire i servizi 24 ore, ad aumentare gli orari di lavoro per dare più servizi ai cittadini. Ma siccome nessuno ci ascolta, e ovviamente non sono slogan ma vogliamo parlare di merito, io spero che il governo su questo ci ascolti, ma che anche l'opinione pubblica sia messa a conoscenza di quali sono le proposte che noi abbiamo avanzato. Davvero non ci siamo assolutamente arroccati alla difesa dello status quo del lavoro pubblico. E allora per concludere, mi dica se è previsto alle porte uno sciopero da parte della CGIL, da parte dei sindacati, tutti i sindacati, che cosa prevedete di fare? Guardi, noi abbiamo già dichiarato tutti unitariamente, CGL e CISL e UIL, che non staremo fermi. Stiamo ragionando sulle forme di mobilitazione, non abbiamo escluso nulla, oggi non sono in grado di dirlo, di dirle quando sarà, ma è evidente che non qualcosa che succederà. Mobilitazione ci sarà. Qualcosa succederà. Io vi ringrazio, Rossana Dettori, grazie per essere stata con noi, segretario generale della Funzione Pubblica CGL, e Serena Sileoni, che è vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni. I messaggi anche sono tantissimi al 349-238-6666. Chi mi scrive: Silvano, sono un auto ferro tranviere, il nostro contratto è fermo dal 2007. Chi ci dice, chi risponde al maresciallo che ci ha detto 1600 euro? Beato lui, insomma, vedete che poi alla fine diventa e si riduce, e in molti dicono 1600 euro, si accontenti. Oppure chi dice: se sono alla canna del gas si trovino un altro lavoro i dipendenti pubblici. E anche chi, vedete, è questo quello che poi si temeva sarebbe potuto accadere e accade. Siete disperati, dipendenti pubblici, benvenuti. Capite che questa è la cosa poi peggiore, se accade, cioè che diventi una guerra tra chi sta peggio o a chi rinfaccia all'altro. Vedete, tu maresciallo guadagni 1.600, io magari solo 1.300 o 1.200, quando è così il paese, non dico che sia perduto, ma voglio dire, no, non diciamolo, sempre ottimismo. Allora al traffico. Allora, le 8:47 minuti, ci sono ancora vari ascoltatori che poi sentiremo sul tema pubblica amministrazione. Intanto voglio salutare il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Sottosegretario. Noi l'abbiamo chiamata per la vicenda soprattutto dei bronzi di Riace, sulla quale vogliamo capire qualcosa. Però, insomma, usciamo da questa discussione sui dipendenti pubblici. Ricordiamo che lei fece anche una denuncia pubblica su alcuni dipendenti pubblici al Ministero di cui lei non ha capito bene che lavoro facessero. Che ne pensa di questo scontro che è in atto tra governo e pubblica amministrazione? Ma io penso che uno scontro era purtroppo inevitabile, perché quello che il governo presuppone di fare, e in questo momento non sto parlando della parte salariale, sto parlando della proposta riguardo la gestione della pubblica amministrazione, quello che il governo pensa di fare è una vera e propria rivoluzione, quindi evidentemente questa rivoluzione passerà attraverso uno scontro che però io mi auguro si traduca in un confronto, anche perché delle proposte unilaterali nel caso della pubblica amministrazione non otterrebbero dei gran risultati senza la condivisione con le parti, certo, sociali. Invece sul blocco salariale, insomma, Renzi dice non c'è dai ricatti e comunque era tutto previsto, ma va bene così? I dipendenti sono arrabbiati, ovviamente, anche i sindacati. È assolutamente comprensibile che siano arrabbiati, come è anche comprensibile che in questo momento il Presidente del Consiglio mantenga il punto. Ripeto, un cambiamento così sostanziale nell'organizzazione deve passare attraverso un confronto. Per quello che riguarda il blocco salariale, è evidente che il governo dovrà fare tutti gli sforzi possibili perché questo blocco naturalmente non sia né duraturo né tocchi tutte quelle categorie che hanno particolarmente sofferto del blocco degli ultimi anni. Allora, invece veniamo alla questione dell'Expo e dei bronzi di Riace. Ma lei se l'aspettava questo dibattito così? Intanto no, mi dica la sua posizione personale e la posizione del governo. Mi sembra di poter dire, Renzi ha detto non ha senso spostare i bronzi di Riace a Milano per l'Expo, anche secondo lei non ha senso? Ma se i bronzi di Riace fossero stati fin dall'inizio il simbolo dell'Expo, io posso capire che allora, ma parlo evidentemente di 2 anni fa, si poteva prevedere, se tecnicamente è possibile, perché io sono perfettamente d'accordo col ministro Franceschini, che comunque, al di là della valutazione del Presidente del Consiglio, vorrà istituire una commissione tecnica che finalmente dirà se i bronzi possono essere trasportati senza rischio. Quindi, fatto premesso che questa è la prima valutazione, sull'opportunità, che è il secondo criterio, io credo che portarli adesso non avrebbe particolarmente senso. Ma perché non avrebbe senso? Cioè, nel senso, non ha senso perché, ripeto, o i bronzi diventavano il simbolo dell'Expo, ma allora questo implicava tutto un percorso che doveva partire da quando è stato, come dire, già deciso qual era il marchio che bisognava applicare all'Expo, oppure è molto meglio fare in modo che l'occasione Expo sia, come deve essere, un'occasione del paese e non solo di Milano, e che questo comporti anche la possibilità che di questi 20 milioni di visitatori attesi una parte possano visitare i bronzi là dove sono. Però questo non le pare un pochino improbabile, cioè che uno venga a Milano e faccia un salto a Reggio Calabria per vedere, non è proprio dietro le porte, ecco. Sì, però c'è un criterio appunto di opportunità dopo quello tecnico che va considerato. Quando si chiede in prestito un'opera che è l'opera principale di un museo o che è l'opera più significativa di una parte del museo, questo vale anche per altre opere che sono state chieste, di cui si è parlato in questi ultimi tempi, è evidente che il discorso dell'opportunità va affrontato. Reggio Calabria ha in questi bronzi il simbolo del suo patrimonio culturale, anche se poi quel museo produce tutta una serie di meraviglie che potrebbero giustificare comunque una visita. Quindi non c'è dubbio che lo spostamento dei bronzi a Milano priva, se non altro per un periodo, quel museo di un'attrazione che è diventata fondamentale. Il tema però è che economicamente pare non si regga, o meglio c'è chi dice, come sa Vittorio Sgarbi, ma non solo, portandoli a Milano si farebbe molta cassa, così potremmo smentire chi disse in maniera famosa che con la cultura non si mangia, ecco. Sì, capisco il punto di vista di Vittorio Sgarbi, io le dico qual è il mio era che i bronzi sono un'opera di una tale importanza che se fossero stati il simbolo dell'Expo potevo capire che si facesse un ragionamento subordinato al giudizio tecnico di portarli a Milano durante il momento dell'esposizione. Non essendo stato così, io credo che a questo punto, in corsa con un progetto che è già avviato, farli venire a Milano come altre opere che verranno a Milano. Io ricordo che verrà l'Ebbe del Canova, che andrà al Padiglione Italia, questo grazie anche all'impegno del nostro ministero, verranno delle opere nostre per la mostra di Giotto, quindi non è che a Milano non arriverà niente. A questo punto aggiungere i bronzi, io credo che in questo percorso, così come siamo oggi, abbia poco senso. Ripeto, è una mia valutazione personale. No, ma è chiaro, poi ci sarà, quella di Renzi già anche c'è stata, però ha detto comunque ci sarà una commissione che verificherà l'eventuale valutazione, farà una valutazione tecnica su un eventuale trasporto. Il ministro Franceschini la farà comunque. E se arrivasse una valutazione positiva, cioè si possono trasportare, si rinvigorisce la polemica, così, capisce? Ma guardi, intanto la commissione tecnica ovviamente prenderà un po' di tempo, ma è giusto che si metta finalmente una parola definitiva sulla trasportabilità da un punto di vista tecnico. Vabbè. Perché la fragilità dei bronzi è, come dire, oggetto di un contenzioso che non ha senso. Intanto, o sono trasportabili o non sono trasportabili. Intanto la ringrazio, sottosegretario, grazie per essere stata con noi. Ilaria Borletti Buitone, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, vedremo come andrà a finire. Voglio sentire questa vicenda bronzi di Riace Expo, vorrei sentire Marco da Roma che ci chiama per la questione statali. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io intanto, se mi concede 60 secondi, non di più, volevo dire due o tre cose che secondo me sono abbastanza importanti. Allora, intanto ci sarebbe da dividere tutto il mondo del pubblico impiego, come ci sarebbe da dividere tutto il mondo delle forze dell'ordine, perché mi dispiace, non voglio fare la guerra, ma il maresciallo non deve dire che prende 1.600 euro, perché lui prende molte indennità anche. Però ha detto di no, io gliel'ho chiesto, come vede, e io gli ho detto compreso di indennità, lui mi ha detto tutto. Siccome è una legge che loro, la super campagna ad esempio, la prendono tutti, non la prende il militare. Marco, però io più che chiedere fidarmi di quello che mi dice. Per quanto riguarda la meritocrazia, le dico, Ad esempio, i militari non hanno degli scatti d'anzianità, perché cambiare grado non è uno scatto d'anzianità, lo scatto d'anzianità avviene nello stesso grado, loro hanno delle promozioni automatiche. Oggi invece la meritocrazia nel pubblico impiego viene definita con un valore di 600 euro in un anno ed è una cosa veramente spregevole. Comunque negli statali, ad esempio, io sono un dipendente del Ministero della Difesa civile, sì, io prendo 1.327 euro dopo 35 anni di impiego. Io vado in Iraq e in Libano perché sono un tecnico e io, a differenza del militare, non ho, devo mangiare in caserma, devo vivere in caserma, loro invece hanno la forfettaria. Lasciamo perdere pure questo, vabbè, qua. Diciamo. La seconda cosa importante, sì, che volevo dire è questo qua. Però devo ricordatevi, sì, sì, velocissimo, si ricordasse tutto il popolo italiano che giustamente ce l'ha col pubblico. Il pubblico impiego ha pagato 3 finanziarie o 4 grazie alla cartolarizzazione dei beni pensionistici del pubblico impiego, cioè noi abbiamo venduto tutti i nostri beni, le case, sì, dell'Impadap per pagare la finanziaria per tutti e oggi ci troviamo che non abbiamo più. Allora, questa però, grazie, ripeto, è la battaglia, vedete, tra lavoratori. Chiudo con Michele Avossa su Twitter: scambio, partita IVA in ottimo stato, nessun debito, con erario composto statali, qualsiasi categoria. No, perdi tempo. 24 mattino. Allora, sono le 9:06. Siamo ancora qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Mi hanno detto che ieri Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno replicato a questa sfida che abbiamo lanciato per la questione cuffiedoro.it. Sapete che c'è ancora il voto popolare per sancire la trasmissione migliore. Noi non vinceremo sicuramente, noi di 24 mattino, ma io ho un obiettivo, quello di surclassare la zanzara, quindi dovete andare su cuffiedoro.it e votare 24 mattino, va bene? Così gli amici serpenti della zanzara verranno schiacciati sotto il tacco di 24 mattino, ok? Ciao Giuseppe, ciao David, ciao a tutti ovviamente, un abbraccio fraterno. Allora, di cosa vogliamo parlare? Sapete che da qualche giorno abbiamo raccontato, stiamo raccontando una sorta di, come dire, che razza di paese è? Abbiamo raccontato qualche giorno fa che paese è quello in cui il sindaco di Locri è arrivato a scrivere a Gesù Cristo per combattere l'assenteismo e la pubblica amministrazione. Leggendo ieri un reportage molto bello di Panorama di Maria Pirro, si potrebbe dire che paese è quello in cui si edifica, si costruisce, si va a vivere nelle zone dove c'è il rischio di eruzione di un vulcano. Stiamo parlando del Vesuvio. Ieri Panorama faceva questo sondaggio: andresti ad abitare nella zona rossa del Vesuvio, caro cittadino italiano? Ebbene, è un tema visto che si continua, secondo Panorama, a edificare. Ne vogliamo parlare con il commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Ugo Leone. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Così come saluto il sindaco di Terzigno, in provincia di Napoli, Stefano Pagano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Uno dei comuni che insiste proprio nella zona Parco Vesuvio. Allora, mi ha molto colpito intanto, commissario Leone, questa notizia che vorrei che lei ci confermasse o smentisse, e cioè che dall'ente parco dei comuni ci sono state richieste di 2000 ordinanze di demolizione dal 1997 a oggi di edifici, e quante di queste sono state eseguite? Sì, glielo confermo perché ci riferiamo alle sentenze passate in giudicato, perché sono quelle che determinano immediatamente la possibilità di abbattere edifici o comunque qualunque tipo di costruzione abusiva. E sono 2000 dal 1997 più o meno. Sì, sì, sì, e li posso anche dire che da quella data, cioè in realtà dal 1998, il parco era stato istituito 2003 anni, al 2005, sono state nell'area del parco effettuate solamente 35 abbattimenti. Cioè 35 su 2000 che sono stati ordinati in seguito a sostanze passate, a sentenze passate in giudicato. 2000 sono poi sono quelle che si sono assommate, diciamo così, a quelle che nel momento erano a disposizione del parco per gli abbattimenti. Poi c'è stato un problema che ha interrotto gli abbattimenti e li ha fermati a 35. Da un paio di anni abbiamo ripreso, con una linearità di comportamento, nel senso che il Parco del Nazionale del Vesuvio innanzitutto ha stipulato un accordo con la Regione Campania per provvedere agli abbattimenti, poi quello non è andato in porto, ma ne abbiamo soprattutto stipulato degli accordi con le tre procure di Napoli, Nola e Torre Annunziata, che sono quelle alle quali fanno capo i 13 comuni del parco. Cioè, capisce, Leone, il fatto di, non so, io mi metto nei panni di una di quelle proprietari di quelle 35 case che sono state abbattute a fronte delle 2000 che in teoria dovevano essere abbattute in virtù di sentenze passate in giudicato. Quasi mi viene da pensare di aver subito un'ingiustizia io che avevo commesso un reato nel corso, perché questo si dà l'impressione che accada in Italia, che chiaramente questi 35 diranno: ma perché proprio me? Ma lei lo sa quali sono i tempi, purtroppo, anche in questo caso, della giustizia italiana. Se il Corpo Forestale dello Stato ci avverte di aver rilevato un abuso, poi comincia l'iter giuridico e quindi c'è una prima, una seconda, una terza sentenza, dopodiché, quando le sentenze sono passate in giudicato, il parco, o meglio i comuni, hanno l'obbligo di intervenire. C'è una difficoltà economica. Il parco ha la disponibilità economica di intervenire per gli abbattimenti, i comuni non l'hanno, ma hanno la possibilità tecnica di intervenire. Sì. Allora noi, dopo che le procure ci passano l'elenco delle sentenze passate in giudicato, con i comuni stipuliamo degli accordi in cui diciamo: noi mettiamo i soldi, voi ci mettete la possibilità. E questa Quindi i soldi li mette l'ente parco? Sì, i soldi li mette l'ente parco, perché il Ministero dell'Ambiente su questo capitolo ci ha dato una... E i soldi, mi faccia capire, i soldi ci sono? Perché molti comuni e molti sindaci, tra poco chiederò anche al sindaco di Terzigno, dicono non ci sono i soldi per eseguire gli abbattimenti. No, i soldi ci sono, e li mette il parco. Tanto che il milione di euro che avevamo in bilancio ormai si è praticamente esaurito, per cui abbiamo chiesto al Ministero di rimpinguare questo capitolo. Quindi noi abbiamo questa disponibilità e chiediamo ai comuni di intervenire con gli strumenti tecnici, no, certo. a meno che l'abusivo non scelga di intervenire in proprio. Vabbè, e questa sarebbe, perché guardi, ha anticipato una mia riflessione che magari faremo tra poco. Sì. Dobbiamo anche, come Stato, perché i soldi dell'ente parco arrivano dal Ministero, quindi dalle nostre tasse, arrivare a sobbarcarci noi cittadini i costi della demolizione di un qualcosa che è stato costruito abusivamente. E per molti cittadini, credo di buon senso, l'impressione, la prima reazione a dire: ma perché non lo facciamo pagare all'abusivo che ha costruito la casa abusiva? Comunque vorrei coinvolgere il sindaco Pagano. Sindaco, a Terzigno, la domanda di panorama messa così: lei andrebbe a vivere in una zona rossa del Vesuvio? Beh, lei ci vive, insomma, che risponde? Io personalmente ci vivo e ci continuo a vivere, perché noi con il Vesuvio ci conviviamo, se noi in questo momento ce ne dovremmo andare tutti i cittadini, cominciando da me e tutti i cittadini, ce ne dovremmo andare. Ma penso che noi viviamo da anni sul nostro territorio, un territorio che vogliamo bene. L'eruzione c'è stato nel 44, nell'eruzione c'è stato il 44, c'è stata questa cosa. Però il momento, chi facciamo però, sindaco? Ci appelliamo a San Gennaro che ci aiuta. Ci appelliamo a San Gennaro. Il problema è questo: non è che all'improvviso, con un colpo di spugna, noi dobbiamo eliminare una zona. È normale che tutto si deve mettere in sicurezza, ma dobbiamo parlare di messa in sicurezza, perché in questo momento, in un momento di grossa crisi per il nostro territorio, come giustamente diceva lei prima, che dalle tasche dei cittadini debbono essere presi anche i soldi per abbattere per reprimere un reato. Dobbiamo prendere Ho capito, ma se, se è un reato, sindaco, cioè... Io non parlo il reato che in questo momento, noi parliamo di un reato di 30 anni fa, se oggi parliamo di un reato di un anno fa, allora al momento in cui lei ha tutte le ragioni di reprimere, noi parliamo di un reato di 30 anni che è stato condonato e che poi si scopre che va abbattuto. Lei dice questo è sbagliato. Ma io dico che è sbagliato perché al momento, in questo momento, parlare di reprimere questo tipo di abitazioni, io penso che in questo momento sia giusto che noi dobbiamo incominciare a parlare di una messa in sicurezza di determinati abusi che sono stati perpetrati 30 anni fa. Parliamo di messa in sicurezza, Però io vorrei capire, infatti vorrei capire questo punto con lei, sindaco. Intanto invito ancora gli ascoltatori, non ho dato il numero 800240024 se volete intervenire su questo punto. Sindaco, ma è possibile mettere in sicurezza alle pendici di un vulcano qualcosa? Cioè, se c'è un'eruzione, che sicurezza vuole? L'unica sicurezza è scappare il più in fretta possibile. Ma io dico, la sicurezza, se lei parla di dire che dobbiamo scappare perché il rischio Vesuvio è di questo grande pericolo, ce ne dobbiamo andare tutti quanti, non c'entra né la casa abusiva e né la casa che è stata fatta negli anni, 40 anni fa. Quando ma non lo so, cioè io non sono un tecnico, diciamo che se c'è il rischio di essere travolti dalla lava non bisognerebbe stare lì. Ma se c'è il rischio è successo anche, i guai sono successi in Liguria, sono successi in tutte le parti dove la gente era nella sicurezza totale, penso che parliamo di protezione civile che erano sicuri al 100%, sono successe delle grosse tragedie. Io dico che in questo momento, in tutta la situazione, non parlo di un momento che noi siamo tranquilli perché dobbiamo sanare oppure dobbiamo mettere in difficoltà i cittadini che ci vivono. Io dico quello che dobbiamo fare, le cose di 30 anni fa, perché qua dobbiamo anche essere anche coerenti, sì. E dobbiamo parlare delle gestioni di 30 anni da tutte le parti, cominciando dallo Stato ad arrivare ai piccoli comuni. No, no, ma è chiaro, questo punto io lo capisco la sua rimostranza e la giro anche a Ugo Leone a capire, ma ci sono persone che 30 anni fa hanno costruito la casa e che adesso, in maniera abusiva evidentemente, ma magari condonata, con gestioni dello Stato e gestioni di queste vicende assolutamente indicibili, è vero, ma del passato, che facciamo adesso? Prendiamo questi poveri cittadini al quali lo Stato ha detto potete stare lì, è tutto a posto, adesso lo stesso Stato dice no e vi dovete pure pagare le demolizioni. Leone, lei che replica? C'è un principio che si tende a trascurare, ma si tende a trascurare per la perdita di memoria. C'è una cosa, ecco, sì, dicevo, come si mette in sicurezza tanta gente, eccetera, eccetera, come si fa scappare? Lo capisco benissimo, però partiamo da una considerazione, mi consenta qualche istante. Nel 1951 vivevano in quelli che fino a un mese fa erano i 18 comuni, ora sono diventati 25, della zona rossa, 320.000 residenti. Oggi sono diventati poco più di 550.000. E va bene, questo numero però non dice tutto se non consideriamo un altro fatto. Nel 1951 quei 320.000 residenti avevano a disposizione meno di una stanza, avevano a disposizione 167.000 stanze, ora quelle stanze sono diventate 527.000. Cioè si è edificato, si è cementificato, si è continuato a costruire in barba, in barba ai rischi. L'abusivismo non c'entra per niente, perché sono abitazioni costruite con tanto di licenza edilizia. Allora, poiché il rischio Vesuvio non è solo legato alla probabilità, magari remota, che il Vesuvio esploda, bensì alla vulnerabilità dell'area, è su quella che dobbiamo incidere. Per cui io mi sono sempre permesso, da che sono tornato alla presidenza del PA, di dire, badate, i cittadini vanno difesi anche da se stessi, perché non si rendono conto che la loro sicurezza dipende dalla vulnerabilità, e che se la protezione civile, l'attuale San Gennaro, li mette tutti in salvo, sì, nel momento in cui dovesse succedere, dovrebbe essere messi Però poi, quando torneranno, che cosa troveranno? Eh no, niente, è chiaro che il rischio sarebbe di non trovare più le case. La storia del 79 dopo Cristo, del 1231, ma perfino quello del 44, ci insegna che il Vesuvio è esplosivo e di conseguenza quando esplode. Esatto. Però Leone, ma si può mettere, cioè che bisognerebbe fare? Cioè, perché il sindaco Pagano dice non è che possiamo prendere tutte, allora dovremmo tutti andarcene via. No. Il principio legato all'intelligenza umana è quello della convivenza con il rischio, qualunque tipo di rischio. Certo, la convivenza con un rischio vulcanico è molto più difficile, anche impossibile, nel momento in cui l'eruzione è in atto. Una cosa è l'Etna, che è un vulcano di tipo effusivo, cioè caccia lava, una cosa è il Vesuvio, che è un vulcano di tipo esplosivo. Allora, poiché tutte le aree della Terra, tutte le aree vulcaniche della Terra attraggono popolazioni perché hanno, come questa vesuviana, un'agricoltura fertilissima e altri tipi di... E allora la convivenza però è strettamente collegata alla possibilità di ridurre la vulnerabilità, cioè anche meno persone, se fossero indotte, incentivate ad andare via e non con il progetto Vesuvia di suo tempo, cioè 30.000 euro chi se ne voleva andare, bensì con un ridisegno, io dico, della geografia delle residenze, dei trasporti, del lavoro, dei servizi in una regione. Cioè un programma serio, dice. Sì, intanto che il Vesuvio dorme, come ci dicono i vulcanologi, e dorme ormai da 44 anni, da 70 anni, e si sono buttati questi 70 anni perché non sono stati messi a frutto in questi termini. Ebbene, io dico che assolutamente bisogna approfittare per aumentare, diciamo, questa convivenza in maniera il più sicura possibile. Sentirei Sebastiano, ci chiama proprio dalla provincia di Napoli. Buongiorno Sebastiano. Salve, buongiorno, sono un professionista che insiste sul territorio vesuviano da 40 anni. Di dove è lei? Di San Giuseppe Vesuviano, conosco anche il sindaco di Vestini. Volevo dire che per quello che riguarda le abitazioni su San Giuseppe e su Terzigno, non ce n'è una che è stata costruita con licenza edilizia, non ce n'è una da 40 anni, addirittura, tutte in maniera tutte. Se lei fa un censimento vedrà che non ce n'è una con licenza. E poi come poi condonate? Tutti abusi, sono 30 anni, sono tutti in maniera abusi, condoni contro condoni, e hanno ampliato i volumi negli anni. Case con tre... È quello che ci diceva adesso Ugo Leone, cioè sono aumentate le... Condivido. E la seconda cosa ancora più importante, lei vede dei bar al centro di San Giuseppe del Signore, che il sindaco Pagano conosce bene, che di sana pianta aumentano i volumi, cioè aumentano, fanno prima delle tettoie e poi le chiudono e cominciano a diventare dei volumi abitativi. Questo è gravissimo. Poi faccio un muro che praticamente mi divide da una papera a fianco, sono abusivo, mi vengono a controllare i vigili perché ho fatto un muro di recinzione. Sebastiano, stia con noi, sindaco di Terzigno Pagano, che replica a Sebastiano che dice che è tutto abusivo in pratica? Al momento, ma io non all'amico di San Giuseppe, che conosco senz'altro, e giustamente non ha detto la bugia, io l'ho anche dichiarato e l'ho detto che al momento noi abbiamo un condono di 30 anni fa, che abbiamo tutte le abitazioni con condono solo che non l'abbiamo potuto rilasciare, insomma, che nelle possibilità, che oggi nelle possibilità che rilasciare. Gli enti, le amministrazioni che si sono succedute non hanno avuto la possibilità di poter rilasciare un condono su questo territorio. Ma io quello che voglio dire, giustamente, qua si parla di teoria, qua parliamo sempre chi si siede dietro ai tavolini e fa delle mappe, si mette e gira intorno e dichiara di come si deve. Ho capito, ma come teoria? Ma è come teoria? Cioè, ma è la prevenzione? Poi succedono teoria, le cose come in Liguria, Scusate, la prevenzione non è che si fa. Che si fa in questo momento per dire che noi non teniamo, in un momento del genere, che non teniamo una costruzione a posto, e diciamo che al momento parliamo di abbattere, di... Ma qual è la soluzione? Un altro bel condono per sistemare tutto a posto? No, io non parlo di nessun condono, io parlo di quello che è successo, quello che hanno soffrito tutti gli italiani e quelle che hanno soffrito tutti gli italiani, vogliamo soffrire anche noi sulla nostra zona, tenendo anche i rischi. È normale che noi con questo tipo di rischi ci dobbiamo convivere, e in questo momento noi ci vogliamo rimanere, perché è un territorio dove tutti quanti sono legati. Siamo, ognuno è legato alla propria attività. Se no, pigliamo ogni cittadino di Terzigno, ogni famiglia di Terzigno, gli diamo il lavoro. Ho capito, ma Sebastiano, lei ha finito il suo intervento, non so, qualcosa. No, io volevo aggiungere una cosa. Io condivido quello che dice il sindaco di Terzigno, perché noi ereditiamo un'amministrazione scellerata di 40 anni, però c'è un altro problema: le vie di fuga, i piani di fuga si possono fare. Ecco, questa è un'altra cosa. Mi scusi, è da mettere in piedi un discorso di organizzazione, anche di muri, anche di segnaletica, però siccome siamo zona rossa ce lo impediscono, perché c'è una un'ottusità, nel senso che perché siamo in zona rossa non possiamo mettere neanche un paletto. Ma questo è un punto però che mi interessa. Sindaco Pagano, perché ieri la Panorama ha raccontato che ci sono i piani di fuga, è tutto a posto, cioè dovesse mai succedere, ma San Gennaro ci aiuti, no? Un problema con il Vesuvio, San Gennaro. In tutte le parti del mondo deve aiutare San Gennaro. Anche qui, San Gennaro aiutaci tu. San Gennaro guardaci tu, questo sì. Guarda Napoli, non... Vabbè, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo invocato talmente tante volte che o ci guarda bene oppure ci dà una maledizione adesso. Però sindaco, è tutto a posto dal punto di vista, succedesse qualsiasi cosa, protezione civile, tutto pronto, esercitazioni, vie di fuga, la gente sa cosa deve fare. Io personalmente non ho detto, perché queste sono piani non sono sovraccomunali, che in questo momento anche la protezione civile e tutta la regione Campania e la provincia, tutti quelli che dovevano usufruire questo tipo di piano, al momento in cui siamo che ad oggi cambiano piano, cambiano cosa? Adesso stiamo redigendo i nuovi piani per la protezione civile. Quindi non siamo pronti. Dove siamo pronti? Io penso che ogni terzignese facciamo le cose, successe ne va per fatti su, non segue nessuno. Ma sindaco, ma io rido, ma ci sarebbe da piangere, ma come ogni terzignese se ne va per i fatti suoi e ce la caviamo, ma no, così noi dobbiamo dire la realtà, è inutile che lei fa il grande noi dobbiamo dire la realtà. Io sono uno che dice la realtà, io governo da un anno questo paese, va bene, ma lei la realtà ci sta dicendo che non è pronto niente, che se succede ognuno sarà capace di cavarsela. No, perché se succede oggi, siamo in questa condizione. Spero da qui a 6 mesi che io governo, io riesco a fare un piano che è preso in considerazione da tutti gli abitanti. Ma io chiedo, non dovrebbe sindaco, cioè qualsiasi sindaco, qualsiasi governatore, cioè non dipende dalle persone, dovrebbe essere un qualcosa, il piano, che non dipende dal sindaco che arriva e lei in 6 mesi lo fa, dovrebbe esserci a prescindere. È quello che è successo da 3 anni che teniamo tutti questi paesi, parlando di tutti i paesi della zona rossa, che teniamo tutte queste abitazioni da 3 anni che non è stato possibile rilasciare una concessione di lì. Ecco, questo è il risultato. Vorrei chiedere a Ugo Leone la questione sicurezza. Leone, a me è un po' sconvolge sentire dire che se dovesse succedere al momento cambiano i governatori, cambiano i piani e quindi non c'è nulla, e per cui se succede ogni terzignese è in grado di risolversela da sola. Guarda, possono cambiare le persone, ma la legge non cambia. Allora, la legge dice 2 cose. Primo, che i sindaci sono dovunque responsabili della protezione civile. Secondo, la protezione civile, nel caso specifico, ha realizzato un piano del 1995 che è stato continuamente aggiornato. L'ultimo aggiornamento di qualche mese fa è nella zona rossa, entrano 25 comuni, e fra cui 2 quartieri orientali di Napoli, e all'incirca 700.000 persone. Il problema è che da allora ad oggi questa cosa non la sa quasi nessuno, se non i quotidiani che ne parlano di tanto in tanto, trasmissioni come questa, ma quelli che devono essere avvertiti, e cioè i cittadini dei comuni e i cittadini che li devono ricevere, perché come pochi sanno, i comuni dai cui si parte sono gemellati con altrettanti comuni d'Italia che devono ricevere. Allora, gli partenti e gli altri non sanno, ma sa perché non lo sanno, soprattutto chi deve partire? Perché non si sono state, non sono state mai fatte, per quanto io sappia, esercitazioni, mai un'esercitazione. Non si può dire, e l'esercitazione non è che un sindaco, quale che sia, per carità, non mi riferisco a nessuno, dica ai suoi cittadini: domani ci mettiamo in pullman e ci esercitiamo ad andare, che so, a Frosinone con colazione a sacco, no? No. Deve essere un allarme improvviso. La questione è seria, cioè non è che si può, è seria non per dire che domani succede qualcosa, non succede a Corna, questo, San Gennaro. E se questo avvenisse, pur con tutti i rischi che sono legati alla paura, che è propria di ciascuno, ma non necessariamente di tutti, la sicurezza sarebbe massima, perché se, come hanno motivo di dubitare, i vulcanologi hanno ragione nel dirci che il rischio vulcanico è di quelli prevedibili con un certo anticipo, l'anticipo significa che c'è il tempo per mettere 700.000 persone nelle loro automobili, treni, nelle navi, nelle barche, quello che sia, consentendo di andarsene, a meno che però non siano preparati, cioè educati a, ma dove per educati voglio dire, vuol dire informati, istruiti, ammati. Informati, certo, e devono preparare e fare ed eseguire queste esercitazioni, va bene, comunque invece confidiamo, come ci dice il sindaco Stefano Pagano, nella capacità di ogni terzignese di cavarsela da solo. Vi ringrazio, Ugo Leone, che è il commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Stefano Pagano, sindaco di Terzigno in provincia di Napoli. Ci fermiamo qui con 24 Mattino, c'è Miriam Lucchetti in redazione insieme ad Alessandro Longoni, ad Elisabetta Fusconi, al nostro alpino Peter Bescapè, che oggi si è alternato in regia, è arrivato con il nostro Pietro Lacorte. Ricordate, cuffiedoro.it, votate 24 Mattino, sbertucciate quei malandrini della zanzara, disgraziati che non siete altro. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.